American Tourister Pack for Stories. Prepara la valigia. Preparati a far festa. Preparati all'estate. American Tourister. Valigie e borse da viaggio. Colorate, leggere e resistenti. Questo è lo stream sperimentale di Runtime Radio. Ci trovi su www.runtimeradio.it. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E cari amici di Runtime Radio, benvenuti come tutti i giovedì alle 21.30 qui sul www.runtimeradio.it, la nostra web radio. Prima di entrare nella trasmissione, permettetemi un piccolo messaggio da parte di Runtime Radio. Un piccolo seme può dare molto frutto se mani amorevoli se ne prendono cura, ma alle volte questo può non bastare. Ogni giorno migliaia di alberi vengono abbattuti, lasciando il nostro pianeta sempre più povero di una risorsa importante per la sua sopravvivenza. Ed è per questo che noi di Runtime Radio abbiamo deciso di sposare la nobile causa di Tridom, una realtà tutta italiana che da anni si batte per riforestare il pianeta con un sistema che fa bene a tutti. Vai sul nostro sito www.runtimeradio.it e accedi da lì alla Varghe-O-Macchia, la nostra piccola foresta su Tridom, in cui potrai comprare un albero da far piantare nel luogo che desideri. Le cooperative locali pianteranno il tuo seme nel rispetto dell'ecosistema, della fauna e aiutando così anche l'economia del luogo. Basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fallo assieme a noi. Cerca la Varghe-O-Macchia sul sito www.runtimeradio.it. Grazie. Bene ragazzi, bentornati, scusate, spingo sempre come al solito pulsanti a caso, e bentornati, quindi aderite, andate su www.runtimeradio.it, cercate sopra tra i pulsanti in alto la Varghe-O-Macchia e insomma compratevi l'alberello e sostenete questo progetto. Allora, benvenuti a Quando eravamo futuro, con me Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, buona ciao, serata ragazzi. Ciao, ciao, ciao, benvenuto, ciao, ciao, bentornato. Ma soprattutto ciao, ciao, questa volta non ti ho tagliato il canale mentre che tu parlavi, insomma, che è la cosa più importante che ultimamente succede sempre molto spesso. Davide Gatti. Buonasera a tutti, eccoci qua, pronti al combattimento. Buonasera, che questa è la puntata di Davide Gatti, ma adesso ci arriviamo. Roberto Tomaiuolo. Ciao a tutti, buongiorno, buonanotte, buonasera, a seconda di quando ci ascoltate o ascolterete. Bene, Roberto Tomaiuolo, autore della puntata scorsa su Chernobyl, che tanto ha attirato l'attenzione, tanto ha fatto discutere, però vi dico semplicemente che tutto quello che è la posta delle ultime puntate la raccoglierò e ne parleremo ovviamente nella prossima puntata, perché non ho fatto un tempo, insomma, a cercare di organizzarmi, perché vi sembra poco, ma il 1 giugno dalle 16 alle 20 grande diretta su Runtime Radio. La diretta del 1 maggio facciamo il nostro concertone personale e privato di Runtime Radio, e ovviamente organizzare quello, insomma, mi ha portato via un po' di tempo, diciamo, un po' organizzare i collegamenti, tutte le cose. Ma la puntata è stata interessante, diciamo, anche su Roberto Tomaiuolo, che lo diciamo, Roberto, lo ufficializziamo. Vai, vai. Allora, sta per nascere un nuovo programma. Noi siamo ancora un po' abituati a dire podcast, ma perché è un termine al quale siamo abituati, ma soprattutto è una cosa che va molto di moda ultimamente. Ma questo è un programma, è uno show, come anche questo qui. Ed è un'idea, quindi un programma ideato e condotto da Roberto Tomaiuolo, che adesso ci introduce brevissimamente. Ah, benissimo, così d'amblè. È un programma che parlerà di storia, in particolare di storia contemporanea, però in realtà alla fine parlerà di quello che mi viene in mente volta per volta. Lo intenderò come un po' un racconto di un thriller, se vogliamo, quindi prenderemo degli eventi o dei personaggi storici e cercheremo di non farlo non troppo noioso. E cercherò un po', come faccio io di solito, come abbiamo fatto con Chernobyl, per esempio la scorsa volta, come faremo con altre cose, di farlo in un modo che attiri anche un po' di opinioni, anche magari discordanti, va benissimo, ci mancherebbe altro, per stimolare la passione di leggere storia e di capire quello che è successo nel mondo, perché io sono convinto che quello che è successo nel mondo causa quello che stiamo vivendo oggi. In particolare che la storia, è l'ultima cosa che dico, la fanno le persone, non la fanno le nazioni, non la fanno tanto le ideologie, ma in ultima analisi la fanno le persone. La e storia siamo noi, diceva piacerà. Francesco De Gregori, se non sbaglio, no? Giusto? Esatto. Bene, bene, questo è un progetto che lanceremo nelle prossime settimane, molto molto a breve, siamo già insomma in uno stato di lavorazione, dateci un po' di tempo e ci organizzeremo, poi vi daremo tutte le comunicazioni relative ai feed. Allora, Davide, caro Davide, questa sera sì. Noi facciamo capire un attimo di che cosa si parla al pubblico. Tutti al mare. A mostrare le ghiappe ghiare con i pesci in mezzo all'onne, noi s'andiamo a divertire e tutti al mare. E tutti al mare, Davide, andiamo tutti al mare. Andiamo tutti al mare. C'è da dire che non so quanti di voi, comunque io conosco anche diversi appassionati che proprio il mare non se lo filano neanche di striscio e preferiscono la montagna piuttosto che la campagna. Sono d'accordo. Però diciamo che generalmente quando si parla di vacanza, non so perché, ci viene sempre in mente il mare. Dai, è l'icona per eccellenza il mare, no? Certo, e quindi ci sta anche l'introduzione canora di Gabriella Ferri. Introdotto. Esatto. Niente, io inizierei con una presentazione di quello che sarà l'episodio, con un breve racconto così che ci comincia un po' a proiettare tutti mentalmente come una sorta di macchina del tempo, un po' indietro in quei periodi in cui le cose andavano in un modo diverso. E niente, quindi io partirei con questa bella presentazione. C'era una volta la vacanza estiva che durava 3 mesi. Spesso le madri non lavoravano o erano insegnanti pubbliche e quindi seguivano le ferie degli studenti, e i padri avrebbero raggiunto la famiglia quando possibile. Si partiva nel primo sabato di giugno e si tornava a metà settembre. L'autostrada era una fila di Fiat 128, Ritmo, Mercedes e Ford Taunus. Si partiva di notte, col fresco, con i finestrini abbassati perché l'aria condizionata, non il condizionatore ma un bocchettone di aria fredda, era così da signori. Ci si appiccicava sui sediolini di plasticaccia. Oppure i treni di lunga percorrenza, spesso sovraffollati, con i seggiolini nei corridoi o per terra. Le famiglie con ogni genere di valigie o pacchi e la cena da treno con 12 portate. Gli omini, ufficiali o di straforo, con i carrellini di vivande con bottiglie solo di vetro. In auto la playlist era fatta di cassette di Fausto Papetti e Castellina Pasi, giusto per far sì che il guidatore non si addormentasse. Il portabagagli era sempre pieno, Barbie con le tette consumate, biglie di plastica con dentro le figure di Gimondi, Bartali, Merx, Canotti, materassini, frisbee, racchettoni, Going, secchielli, palette e formine, e le carte Modiano per la scala 40, un classicone. Il portapacchi con una composizione stile Tetris al fine di ottenere un parallelepipedo che durante il viaggio faceva un frastuono infernale. Vettovaglie ricavate da tutto quello che sarebbe andato male nel frigo rimasto vuoto e spento a casa per settimane. Una volta arrivati, venivamo depositati nel luogo destinato e il giorno dopo i papà ritornavano a casa per continuare a lavorare, rifacendo il viaggio ogni settimana per passare il weekend con la famiglia, fino a quando non iniziava il periodo festivo anche per loro, per poi continuare il ciclo migratorio. Spesso le vacanze duravano così tanto che si prendeva l'accento del luogo e una volta ritornati, quando si metteva piede in casa, sembrava di non riconoscerla più. Tutto sembrava strano e anche l'odore non ci sembrava familiare. In quel periodo l'Italia era la quinta potenza mondiale. Eravamo spensierati e felici. Il mare era pulito. Si giocava tutti assieme. Eravamo tutti uguali. E per quel periodo eravamo tutti grandi amici, come se ci conoscessimo da sempre. il mare faceva bene e nessuno si ammalava. Le protezioni solari erano di due o tre tipi. Quando si andava in spiaggia, la mamma portava una borsa tipo Eta Beta, dove dentro c'era mezzo mondo. Tutti noi ci divertivamo con quasi niente. Nessuno aveva compiti per l'estate e al massimo si leggeva qualche libro per passare il tempo sotto l'ombrellone. Il tempo era bello fino a Ferragosto, poi arrivavano i primi temporali e si cominciava a respirare aria di ritorno a casa. In un lampo arrivava settembre, la transumanza ricominciava, si ritornava a scuola, si andava in cartelleria per il nuovo grembiule, il nuovo diario, la nuova cartella e la vita riprendeva. L'Italia cresceva e il primo tema a scuola era sempre «Parla delle tue vacanze». È vero. Oggi molto è cambiato. Le vacanze e il mood è molto diverso. Dura talmente poco che parti con l'idea di andare a fare la spesa e tornare. Parti con ancora un residuo di cose di lavoro da fare in testa che quando finalmente riesci a staccare è ora di tornare a lavorare. E quasi quasi la prossima volta ci pensi due volte prima di partire. L'Italia sembra che vada a rotoli, si sente che la gente fa la fame. Le vacanze sembrano solo per pochi e ci facciamo sempre la solita domanda. Era meglio allora o è meglio oggi? A questa risposta c'è solo il poker di conduttore di Quando eravamo futuro, che ognuno con la sua storia e la propria esperienza ripercorrerà quei tempi passati alla ricerca della verità. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra due dolcissime. Bene, io faccio i complimenti a Davide che ha fatto una bellissima introduzione, penso piena di verità, cioè proprio un succo, un condensato di verità, anche perché è difficile riuscire a riorganizzare questo pensiero, ma ogni cosa che ha detto mi veniva da fare sì. Bravo, è vero, Davide, è vero. Insomma, questo che poi ognuno magari non tutti hanno vissuto tutte le stesse identiche cose, perché c'è chi va in treno, chi va in macchina, sì, ma chi ha dato l'atmosfera... Sì, ecco, infatti era il proiettarsi in quel periodo, quei ricordi, quella situazione. Però sembra un'altra galassia, ragazzi, pensateci. No, cioè, ma infatti, pensavo in televisione. Bravo, pensavo alla stessa cosa. In televisione, che non sono io, era me stesso. Pensato. Me stesso in TV che vedo e sul treno, sul sedino ribaltabile in corridoio. Con l'uomo con le bibite che vede i panini di gomma. Allora, intanto non va cavallate, perché se parliamo con ordine, cioè cerchiamo di andare con ordine. Comunque quello che dice Roberto è giustissimo. E direi che la prima cosa sulla quale io vorrei soffermare la vostra attenzione, poi ditemi se siete d'accordo, è che anche in questo gli anni 70 sono state una grande trasformazione, perché è stato il periodo in cui sono iniziate le vacanze di massa, no? Non che non esistevano prima, però il fenomeno della vacanza al mare, della famigliuola che poteva permettersi il lungo soggiorno, cioè nel senso pure ma anche quelle che non si potevano permettere, perché era una cosa che bisognava fare anche se non potevi permettertelo. Una cosa, mettiamo un attimino in ordine. Allora, secondo me, negli anni 60 è iniziato questo periodo con il boom economico degli italiani, quindi è più una cosa che è iniziata negli anni 60. E infatti i filmetti risalgono agli anni 60, no? I filmetti quelli primi, insomma. Noi l'abbiamo vissuta comunque alla grande tantissimo negli anni 70 e anche in parte negli anni 80. Quello che ha detto Simone prima riguardo al fare sì con la testa, e soprattutto Roberto, quello che ha detto dopo dicendo era un mondo molto diverso, esatto, mi vedo come in un film, o comunque il mondo era veramente diverso, mi ha fatto riflettere oggi anche leggendo lo scritto che ci ha passato prima, quello che ha letto prima Davide, l'introduzione alla puntata. mi ha fatto riflettere su una cosa. Sapete, io lo dico spesso, che dopo il 2000, no, c'è stata la rivoluzione digitale, l'avvento di internet, che ha cambiato drasticamente il mondo dal punto di vista dell'economia e della globalizzazione. Però mi sentite spesso dire, chi mi conosce lo sa, che in realtà le abitudini, la socializzazione eccetera, alla fine è sempre rimasta più o meno uguale. Questo è vero nel riguardo, cioè, che non è stata la tecnologia, quello che intendo sempre dire è che non è stata la tecnologia a cambiare il mondo in cui viviamo. Però effettivamente, sentendo questa intro, ci rendiamo conto che la socialità, il modo di comportarci eccetera è cambiato drasticamente. Ma quello che ci dovrebbe far riflettere è che non è cambiato per colpa o perché c'è stato l'avvento della tecnologia. Alla fine è cambiato per altre motivazioni, perché in realtà noi non abbiamo cambiato queste abitudini che avevamo da ragazzi, di fare 3 mesi di ferie e stare via per 3 mesi, dove si fermava l'universo e la gente andava in vacanza tutto agosto. Perché? Perché è arrivato internet, perché è arrivata la globalizzazione. In realtà è un processo che era già iniziato, diciamo, verso la fine degli anni 80, continuato negli anni 90 e poi avuto il suo compimento negli anni 2000, che, se vogliamo, è dovuto più al crescere del benessere diffuso e al modo diverso di rapportarsi col mondo del lavoro. Quindi il mondo è cambiato, ma non perché è arrivato internet, per la tecnologia, come spesso si sente dire adesso, perché abbiamo internet, abbiamo i tablet, abbiamo i cellulari. In realtà i tablet, i cellulari, internet eccetera non c'entra niente con questo grande cambiamento che abbiamo vissuto. Non c'entra almeno niente, questo è quello che penso io. Non c'entra niente, è un po' un assolutismo, diciamo, che è diciamo, diciamo che è un insieme di cose che hanno trasformato comunque la nostra società. Io partirei, se siete d'accordo, così sentiamo anche gli altri due. Partirei dal quando eravamo piccoli, no? Cioè, nel senso, perché una delle cose che ha descritto Davide all'inizio e che a me mi ha affascinato tanto, questa cosa è il fatto che i nostri genitori, di solito il padre, perlomeno, portava, chi se lo poteva permettere chiaramente, ma insomma diciamo che è aumentato molto rapidamente il numero di persone che più o meno se lo potevano permettere, o che comunque erano nelle condizioni magari anche di indebitarsi per far fare alla famiglia magari i 3 mesi di vacanze, perché comunque noi misuriamo le vacanze alla nostra età, cioè alla nostra gioventù, alla nostra, al periodo in cui eravamo ragazzini, che andavamo a scuola e che, come dicevamo, il mondo si fermava il 15 settembre. No, il 15 giugno e riprendeva il 15 settembre fondamentalmente, no? Cioè, quindi praticamente ci stava questa pausa di 3 mesi nel quale tu eri proiettato in un altro universo, in un altro contesto, con altre amicizie, in un altro ambiente, e tanti di noi avevano il padre che portava la famiglia lì, poi al massimo veniva al fine settimana perché lui giustamente doveva continuare a lavorare. Ora poi questo è anche sinonimo, insomma, di altri eventi, no, collaterali, che chiaramente potevano succedere, tipo ops il bagnino o ops la segretaria, non sappiamo, non vogliamo sapere, esatto. Non vogliamo, però sicuramente, insomma, qualche evento, insomma, di questo tipo, anche testimone, insomma, e sono successi. Ecco, io partirei da quando eravamo ragazzini, che poi tra l'altro sta cosa pure delle file chilometriche, cioè voi oggi, cioè, le macchine cariche di sti cose della roba del mare, no? Cioè, ma ve le ricordate l'immagine? Cioè, è un dipinto, cioè, di una società che non esiste più. Cioè, è incredibile. Sì. Non esisteva, perché andavamo in vacanza tutti in quel periodo lì. Tutti insieme. Tutte le vite chiudevano ad agosto. Quindi non era una cosa strana, era normale. No, era normale. Cioè, era una cosa standard. Cioè, il 15 di si parte tutti, perché è quel giorno che si viene a partire, ma non è che ci si faceva. Sì, c'era quello che ci si organizzava. Era difficile restare in città, non trovavi da mangiare. Non trovavi. Esatto, cioè, diciamo che a Roma non trovavi da mangiare ad agosto fino a 10 anni fa, cioè, nel senso, sì, ma anche a Milano, cioè nel senso, comunque il proprio, questa cosa è cambiata molto in maniera proprio esponenziale negli ultimi anni. Però è vero, sì, che all'inizio, cioè, nel senso, diciamo negli ultimi 20 anni, dai, diciamo, sì, vabbè, però io ti dico, a 12 anni fa con Michela siamo dovuti tornare a Roma, non sappiamo dove andare a mangiare roba, già non trovavamo un posto aperto il 12 agosto, cioè è stato un po' particolare, no? Però ecco, partiamo da questo, perché pure da questione delle fine, delle file chilometriche, scusate stasera mi sto impicciando, perché la mettevi in conto, cioè la scena è veramente un DVD. Io me la ricordo, il fatto che tu sapevi che andavi al mare che stava a un'ora di distanza e lo sapevi che ci mettevi 3 ore per arrivare, e tutti sì, in fila che smadonnavano col caldo, poi l'aria condizionata negli anni 70 erano erano il finestrino aperto, era il ventaglio in mano, esatto. Quindi cioè, tu mettevi in conto questa sofferenza, questo calvario, questo esodo, che però ti portava in un mondo dove quando eri arrivato eri pam, spento, cioè basta, non esisteva più niente, tutto quello che tu dicevi. Ecco Davide, insomma, parliamo di quando eravamo ragazzini e dell'arrivo, dell'andare al mare, cioè proprio la sensazione, l'ultimo giorno di scuola, regà, cioè, ma che ce l'avevi qua sul petto, capito? Sentivi, cazzo, è l'ultimo giorno di scuola, cioè eri eccitato, un po' dispiaciuto perché magari non vedevi i tuoi amici, no? Insomma, però sti cazzi, cioè, via tutti al mare. Ecco, insomma, partiamo da Davide, poi Roberto e poi Carlo. Poi io ho avuto la fortuna di avere diversi amici che per casualità venivano nello stesso posto dove andavo al mare, e quindi me li trovavo là. Cioè, ci vediamo là, io in una pensione, lui in un'altra, però alla fine ci si trovava tutte le sere, addirittura qualcuno veniva nella stessa mia pensione. Io diciamo che comunque ho avuto due o tre fasi di tipi di vacanza, diciamo, chiamiamoli così. La prima, quella diciamo un po' più povera, dove in realtà accadeva questo fenomeno, ma venivamo depositati dai nonni, sostanzialmente mia nonna o dai miei parenti a Parma. Io sono nativo di Parma, ho tutti i parenti a Parma, quindi chi poteva dare supporto ai miei genitori per i suoi loro 3 figli, perché eravamo in 3 in quel periodo estivo, eravamo una palla al piede, no? E quindi bisognava in qualche modo sbolognarli da qualche parte. Allora, molti avevano le case al mare, ma quello successivamente, quando poi la gente si è un po' più arricchita, ma fin tanto che non, diciamo che il primo mese, prima di arrivare ad agosto, venivamo depositati praticamente dai nonni, e quindi io passavo dei periodi, diciamo, di vacanza dagli zii nonni in campagna, e quindi con le mucche, le stalle, in giro col trattore, comunque tutte cose che si potevano fare solo in quel momento lì, cioè di andare su un trattore con le balle di fieno mentre mio zio andava a raccogliere il grano, che ne so, piuttosto che mungere le mucche, fare tante cose che nessuno adesso fa praticamente più, quasi. E quindi c'era questo periodo così di transizione prima delle vere vacanze, perché poi dopo noi andavamo quasi sempre nella Riviera Adriatica, quindi mio padre poi partiva da Milano, veniva a Parma, ci raccattava e andavamo poi definitivamente al mare per credo 15-20 giorni, un mese, circa un mese, per poi tornando rimollarci a Parma e quindi ritornare. Poi lui ritornava a lavorare e al limite poi doveva fare solo una spola Milano-Parma, Parma-Milano nei weekend, che in qualche modo era un po' più vicino. Poi chi era invece in Liguria faceva delle tratte liguri, però sapete, Riccione su 400 km, se il papà, come raccontato qua nel racconto, si doveva fare Milano-Riccione, Riccione-Milano ogni weekend, era anche un attimino un po' impegnativo. E in realtà nel mio caso specifico faceva Milano-Parma, Parma-Milano, fin tanto che eravamo parcheggiati lì. E in più c'è stato invece un periodo precedente, però è capitato solo un paio di occasioni, non so se voi siete mai andati nelle colonie. Lo stavo per dire, guarda. Però spiegalo, spiegale che sono le colonie, perché non è una cosa che adesso credo non esistano quasi più. No, esisteranno. Delle cose analoghe, forse le colonie più. Le colonie, diciamo così come le intendiamo noi, quelle anche che abbiamo visto nei film fantozzi, per capirci, forse no, però ci sono i centri estivi, i centri scuoi, i campi scuola, insomma esistono ancora delle cose, delle svorme, delle cose più strutturate, decisamente più. Però una volta c'era pure quella cosa aziendale, no? Io mi ricordo c'era proprio la colonia dell'azienda, no? Della Rai, delle grandi zone, c'era dell'Olivetti, tornavi in colonia della Fiat. Sì, perché comunque ricordiamoci che queste grandi aziende, Fiat, Olivetti, forse anche la Rai, erano talmente, ci tenevano, avevano un sacco di infrastrutture per la gestione di tutta questa dei figli dei dipendenti. Per esempio in Olivetti i dipendenti, i figli potevano andare a mangiare in mensa, dopo la scuola andavano a mangiare in mensa perché nessuno non trovavano nessuno, perché erano tutti a lavorare, non trovavano nessuno a casa che gli facesse da mangiare, potevano venire a mangiare in mensa piuttosto che dopo scuola, piuttosto che c'erano anche le scuole, gli asili all'interno dell'Olivetti, c'era proprio una struttura mirata ad agevolare le famiglie, c'erano un sacco di servizi e c'erano ovviamente anche le colonie estive che consentivano in quel periodo in cui sia la mamma che il papà lavoravano di parcheggiare i figli da qualche parte, perché i figli erano a casa da scuola e non potevi lasciare dei minorenni in giro per la casa se non avevi dei nonni o dei parenti che ti potevano. Ricordiamo che alcuni erano dei lager veri e propri, alcuni, cioè nel senso, visti un po' così, sì. Cioè. In effetti, io comunque ho fatto un periodo di un paio di 2 o 3 anni, me li sono fatti in colonia estiva in montagna. In particolare mi ricordo che andavamo a Misurina, che è un posto qui nel nord Italia, adesso non so neanche dirvi dove sia praticamente. So che si vedevano le 3 cime di Lavaredo da dove eravamo. Ah, bello! Giusto per dirvi in che zona eravamo. E quindi ci parcheggiavano lì fin tanto che non si poteva poi andare effettivamente al mare, e che anche mio padre era in ferie, quindi, e anche la mamma. Così in questo caso, a differenza di quando andavamo a Parma, la mamma era a casa col papà da soli e facevano le cose che finalmente non si, finalmente facevano qualcosa. Eh sì, perché noi eravamo in 3 figli, il che circolavano in casa non era facile fare. Quindi ci mollavano là, poi dopo andavamo in vacanza e poi ci parcheggiavano a Parma. Quindi noi avevamo sempre questi cicli migratori di questo genere. E non abbiamo quindi mai avuto un esempio come quello che ho raccontato nel racconto, che invece è tipico di quasi tutti i miei amici, che invece per qualche motivo, magari chi abitava, era nativo del sud Italia, quindi partiva per la Calabria piuttosto che per la Sicilia, piuttosto che per il suo paesello, e lì era proprio una transumanza pesante, cioè un viaggio di 20 ore, non so, di tante ore, si partiva di notte, si arrivava il giorno dopo in Sicilia, che ne so. Madonna, e sì, allora lì, l'Italia era, i posti erano lontani ancora. Sì, anche perché dove abitavo io, che era Cinisello Balsamo, in realtà era una zona molto periferica di Milano, che negli anni 60 si è popolata molto di lavoratori che provenivano dal sud. Adesso non è tutto così, però insomma molti venivano dal sud. Io ho tanti dei miei amici, tantissimi, bene o male d'estate erano quasi sempre tra Calabria, Sicilia e Puglia, insomma zone molto lontane, quindi facevano questa transumanza pesante, insomma un viaggione sì. Per stare lì fino proprio all'ultimo minuto e tornare su l'ultimo giorno. Sentiamo pure, quindi, allora, intanto salutiamo tutti quelli che sono in chat: PRG, Michela, Olivia, Andrew. Ho visto Andrew, non mi ricordo adesso. Vabbè, comunque me li sono un po' persi. Tra l'altro, Michela dice: Pier Grippa. Tra l'altro, Michela dice che loro, vabbè, li portavano dai nonni a giugno e praticamente stavano insieme a tutti quanti i cugini fino ad agosto, che partivano col camper e lì partiva proprio la carovana, insomma, ed è una bella esperienza. Anche questa, ecco, delle vacanze del camper che era molto anni 70, che poi è tornata molto di moda negli ultimi 10 anni, poi fondamentalmente è ritornata proprio in auge, e in particolare, tra l'altro, infatti a Michela stiamo lavorando ai fianchi, perché il nostro obiettivo, come tutti sanno, insomma, è quello di comprarci un bel camper il prima possibile, e negli ultimi 2 anni, chiaramente, anzi l'ultimo anno con il discorso del Covid, questa cosa si è amplificata ancora di più, perché è l'unico modo in teoria per fare una vacanza tra virgolette in sicurezza, insomma. Roberto, invece tu racconta quando iniziavano le tue vacanze da bambino, perché ricordiamo che stiamo parlando da bambini, perché poi dopo cambiano le cose dopo un pochino, anche per noi, insomma. Assolutamente sì. Mi fai fare un piccolissimo inciso su, ritornando a quello che dicevamo prima, cioè il cambio epocale è dovuto anche al fatto che più che internet o cose del genere, a quella che possiamo definire la globalizzazione, cioè Nei nostri paesi, a me viene in mente l'Italia, viene in mente la Spagna ad esempio, soprattutto per motivazioni climatiche, era una cosa naturale, storica, fare certi stop nei periodi più caldi. Certo. Poi non è stato più possibile perché nei contatti con l'estero, le ditte che esportavano e tutte queste cose, non era possibile fermare il paese per 3 mesi. Mi viene un esempio, io sono stato 10 anni fa in Spagna e solo adesso sta un po' cambiando la loro abitudine, che è diversissima. Loro vanno a lavorare molto spesso alle 6 del mattino, lavorano tipo 4 ore, alle 10 vanno a fare in alcune regioni una cosa che si chiama il muerzo, che sarebbe la seconda volta che fai la prima colazione, e poi tornano a lavorare tipo almeno una volta alle 3 del pomeriggio o alle 4, addirittura fino alle 7 di sera. Madonna, dopodiché sarebbe pure peggio, una cosa folle. Sì, è una cosa folle, tant'è vero che tu che ami il calcio, non so se ci hai fatto caso che soprattutto in passato le partite di calcio serali in Spagna erano tardissimo. Sì. Ora anche lì è cambiato perché non è sostenibile in un mondo globalizzato. Vabbè, una sì, cosa di questo tipo ci deve essere un adeguamento anche degli orari, certo, è chiaro, se no non funziona. Venendo a me, io come penso sanno ormai gli ascoltatori, sono cresciuto a Milano. La mia famiglia è di origine napoletana, però io ho passato la grandissima parte delle mie vacanze di bimbo in Puglia, cosa che voleva dire che noi partivamo all'inizio, mio padre, la prima macchina era una 128, poi prendemmo una fiammante nuova Alfa Sud, madre, che fa ridere, però all'epoca quando mio padre la comprò era sì, nuova, sì, non era male, era la prima macchina italiana che aveva, mi ricordo ancora, l'orologio a LED, che quando ci entrai mi sembrava un'astronave, cos'è questo coso, e quindi ci sparavamo questi, non so, 1100 chilometri, una cosa del genere, quindi 12-13 ore di viaggio per con soste, cose in un caldo apocalittico con le varie soste. Io ricordo ancora l'incidente, perché c'era sempre un incidente da qualche parte, che a volte ti bloccava anche. Ma a volte mi ricordo in alcune circostanze 4 ore. C'è cose davvero da ricordare, per poi arrivare senza considerare, Roberto, scusa se ti interrompo, senza considerare gli autogrill, non so quelli di oggi, cioè non erano quelli di oggi gli autogrill, cioè quando ti fermavi, a parte l'esodo, la gente che si lavava i capelli, chi si lavava i piedi, insomma c'era proprio, è veramente è un paese pittoresco, era, cioè nel senso, poi più andavi verso il sud chiaramente sta cosa poi insomma, però vai scusa. No, vabbè, comunque il cibo lo portavi da casa, praticamente il panino cavo. Metà del quindi con la frittata, ricordo il panino con la frittata. Io ricordo la frittata di maccheroni, che è una cosa che grande, non esiste più. No, io la faccio ancora ogni tanto, sì. E io andavo in una bellissima località che è ancora tale, marina del sud della Puglia, che si chiama Castro Marina, che è un posto spettacolare, perché aveva un'acqua incredibile, e di solito noi affittavamo casa, quindi per 3 mesi si affittava casa, e mio padre però lì non poteva venire tutte le settimane, chiaramente, perché non poteva fare 1100 chilometri, era improponibile, quindi ci portava, tornava su, poverino, e poi solamente per il mese della vacanza, insomma, la faceva. E ho dei ricordi davvero, davvero belli. Come dicevo, ormai è passato così tanto tempo, ma forse non è nemmeno il tempo, è così cambiato il mondo, perché secondo me è questo che incide di più a livello psicologico, che mi ricordo queste cose, però in un certo senso so che sono io, però mi sembra quasi Matrix, nel senso che mi sembra un ricordo impiantato, quasi che come se non fossi io, perché veramente mi vedo in televisione, vedo un tizio che ho questo ricordo di questo tizio in spiaggia che si diverte, che fa le cose, però in un certo senso non mi sento io, però ciononostante sono dei ricordi assolutamente fenomenali. Quindi arrivavi, di solito io quasi sempre trovavo compagnie nuove, che è una cosa un po' particolare, che forse perché la località era piccolina, mentre non so, a Rimini più o meno, in altri posti immagino che le compagnie fossero più o meno sempre le stesse, però facevamo le stesse cose, quindi usciva le bancarelle lungo le strade con i giocattoli, le stupidaggini, il fucile per abbattere le lattine e queste cose. Uvo Solar. E sono ricordi Uvo Solar. E siamo in un loop. I fotografi che ti fanno la foto ogni 3x2 col leoncino in spiaggia. Madonna che hai ricordato. Ti ho sbloccato un ricordo. I cinema delle località estive, dove io andavo a vedere Bud Spencer di solito, sì, per dire, dove al mare facevano vedere dei film in prima visione che a Milano non c'erano. Esatto. chissà come facevano. All'aperto, ovviamente. All'aperto, se pioveva, annullato la visione. Il cinema, ve lo ricordate, è bellissimo, perché almeno al mare di solito erano con le sediolette di legno, anche carini. Sì. Con la fine primo tempo in cui tutti si alzavano e andavano, c'era il baretto. Baretto, prendere. Ma non come adesso, col popcorn, roba americana, cioè all'italiana, insomma. Certo. E quindi un po' di nostalgia, dai. Sì. Guarda, prima di passare a Carlo, così facciamo fare un po' il suo excursus. Io devo dire la verità che i miei ricordi sono estremamente compatibili con i vostri. La cosa bella che posso dire io è che quando tu ti spostavi in un altro posto conoscevi, come abbiamo detto già in altre puntate, in altre occasioni, conoscevi persone che parlavano un accento diverso dal tuo, che venivano da un posto diverso dal tuo, avevano abitudini anche diverse dal tuo. E questo era sempre il motivo dell'acchiappo, no? Il fatto che comunque tu parlavi un dialetto che a loro vi sembrava musicale, era bello, allora ti attiravi l'attenzione, no? Era un po' questa. A pizza e maccheroni, dice giustamente Lobby Frontali. Sì, immagino che la pizza e maccheroni in macchina, insomma, deve essere comoda a mangiarla. Comunque, una delle ultime cose che hai detto, Roberto, che però me la sono dimenticata, e quindi niente, è andata perduta come lacrime nella pioggia. Poi quando mi ascolterò la puntata mi verrà in mente e lo ridirò la prossima volta. E si parlava di cinema all'italiano. Ah, ecco, del cinema, bravo. Allora, mio padre, mio nonno e mio padre, diciamo, comprarono questa casa in un consorzio. Allora nel litorale romano si faceva così, cioè non si faceva come sulla riviera adriatica, che c'erano milioni di stabilimenti uno appiccicato all'altro, e in maniera più o meno abusiva nel litorale romano, insomma, si costruivano questi consorzi che diventavano una sorta di piccoli villaggi, praticamente, dove ognuno era proprietario delle proprie case ed erano dei micromondi piuttosto chiusi, insomma, erano confinanti con altri consorzi che andavano anche lì praticamente. E noi comprammo questa casa, io mi ricordo, nel 1976, io sono nato nel 72, cioè avevo 4 anni 5 anni, insomma, dai, 77, dai, facciamo adesso. Mi ricordo pochissimo della prima volta che andammo a vedere praticamente questa casa, che ancora il consorzio era in costruzione, ed era la casa, era a 30 metri dal mare, era proprio di fronte al mare, cioè proprio una cosa bellissima. Comprammo non so quanti cambiali, mutui, cose fecero per comprare sta casa, e da lì in poi praticamente cominciarono a popolarsi praticamente le case, e nell'arco di 2 o 3 anni il consorzio era completamente pieno e diventò una sorta di macro famiglia, insomma, poi alla fine, no? E tra le varie attività che si organizzavano tra i genitori, allora, che erano tutti giovani e via dicendo, c'era questa cosa del cinema. E questo cinema, praticamente, non so chi rimediò, comprò, noleggiò un proiettore e trovò anche le pellicole, i vari film, insomma. E si fece in un grosso garage sotto, all'interno di questo, insomma, di questo consorzio, dove c'erano dei vari garage dove si scendeva praticamente, e c'era un grosso spiazzo, mettevano il telo col proiettore e proiettavano praticamente i film con tutte le seggioline di legno che tutte le portavi da, ognuno si portava la seggiolina sua. E uno dei primi film che proiettarono fu Lo Squalo. E fu una cosa incoscientissima, perché eravamo tutti ragazzini, tutti a un certo punto fu un delirio, cioè nel senso tutti piagnevano, che si disperavano, che scappavano, che non volevano vedere, insomma, una scena proprio fantoziana, insomma. Ora Ma tu pensa, oggi penso che sarebbero tutti arrestati, più che altro. Sì, beh, noi, un locale senza autorizzazione, sottoterra. Sì, sì, sì, assolutamente. No, come è diventato complicato il mondo. Era non era sottoterra, però, perché vabbè, è difficile un po' spiegare come era. Era riabbassato, ma sopra era tutto aperto, poi, fondamentalmente. E la cosa bella è che noi siamo la generazione che ha visto L'Esorcista alle 8:30 sulla rete Mediaset, insomma, quindi non esistevano proprio le regole. Cioè, nel senso, non venivano minimamente tenute in considerazione, forse perché magari per uno schema, diciamo, predefinito, si pensava che l'8:30 i bambini dormivano col cazzo. Vabbè, ma mi ha parlato anche nella puntata dei giocattoli, noi siamo sopravvissuti ai nostri giocattoli. Esatto, quindi figurati. Esatto. Il resto, vai Carlo. Vabbè, niente, è molto simile in realtà. Ognuno di noi l'ha vissuta in maniera diversa, ma uguale, perché sì, l'Italia era quella, non è che andiamo tanto lontano, funzionava così e funzionava così per tutti. E indipendentemente, come ha detto Davide all'inizio, indipendentemente anche dalla tua fascia sociale, dalla tua fatto se eri povero, se eri ricco, ricchissimo, cambiava poco, cioè si andava tutti al mare. Al massimo la differenza ce l'avevi che quelli ricchi avevano le file davanti degli ombrelloni e quelli poveri avevano le file dietro degli ombrelloni, ma non è che cambiasse poi tanto, però, ci si mischiava. Però era bello, soprattutto però ci si giocava comunque come se fossimo tutti insieme, della stessa. No, infatti questo pensiero che ha detto Davide all'inizio, che magari valeva per i genitori, no? Ma non valeva per i ragazzini, cioè nel senso che Non c'era nessun tipo di confine, nessuna tipo di differenza. No. Anzi, la cosa diversa, il modo di essere diverso, di parlare diverso, comunque ti attirava l'attenzione, no? Come dicevo prima. Quindi alla fine, comunque. Insomma, tutto sì, ma a parte la diversità delle regioni che si incontravano, che era comunque c'era, ma io parlavo anche della differenza anche sociale. Di, se vuoi adesso, nel mondo in cui viviamo adesso, ci sono i posti delle vacanze dei ricchi e i posti delle vacanze dei poveri, un pochino, se vogliamo vederla da questo punto di vista. Sì. All'epoca invece in Italia si andava tutti in vacanza, che eri ricco, che eri povero, certo, finivi sempre lì, certo. Cioè, non è che andavi tanto lontano. Io, avendo il papà milanese, come già detto, mia mamma non era milanese, è di Nocera Inferiore, ma era venuta a Milano a lavorare, poi si è sposata con mio padre. Mio padre era milanese 100%. 100%. Certo, con nonno milanese, papà milanese, nonna, eccetera, eccetera, e la maggior parte dei milanesi negli anni 70 aveva la seconda casa in Liguria, cioè c'era proprio una migrazione dei milanesi nel periodo estivo che andava da Milano verso la Liguria, verso tutta la Liguria, cioè la costa ligure era colonizzata dai esatto, milanesi, sì, praticamente. Quindi io ritrovavo un po' tutta, anche se. Cosa succedeva? Come ha detto giustamente Davide, tu avevi la compagnia dei tuoi amici di scuola a Milano quando facevi scuola, avevi poi la compagnia del mare, perché tutti gli anni si trovava tutte, certo, le stesse persone, sempre tutte nello stesso posto. Assolutamente. Quindi sì. Quindi avevi la compagnia fissa, tu sapevi che avevi compagni di scuola fino al 15 di giugno, poi dal 15 di giugno in poi, dal 20, avevi la compagnia del mare. È vero, è vero. Dove erano tutti gli amici che si ritrovavano. Io avevo amici di Vigevano, di Pavia, di Torino, eccetera, che tutti i santi anni ci si ritrovava lì ed era la compagnia del mare. È vero. E quindi ti ritrovavi, cioè era anche, cioè non vedevi l'ora giustamente di andare lì e di vivere quest'altro mondo diverso che era. Io andavo a Borgio Verezzi, dove attualmente i miei genitori vivono, perché la casa che era la seconda casa è diventata la loro prima casa da quando sono in pensione praticamente. E andavo a Borgio Verezzi. E a Borgio Verezzi tutti gli anni, Borgio Verezzi sta tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in provincia di Savona, sulla costa della Liguria, ma era molto molto, all'epoca era molto simile alla Riviera Romagnola, cioè cambiava veramente poco, le cose erano uguali, c'erano le stesse cose, discoteca, sale giochi, stabilimenti balneari e fine, cioè tu andavi lì e per tre mesi ti facevi, e infatti mi ricordo, adesso sono tipo, in questo momento la mia carnagione è color viola sottoscala, ma all'epoca più o meno di quel colore lì, quando andavo fino ai 17 anni, dai dai 4 mesi di età, perché avevo 4 mesi la prima volta che mia madre e mio padre mi portarono sulla spiaggia di Borgo Verezzi, fino ai 17 anni io partivo alla fine della scuola e tornavo quando la scuola doveva ricominciare, e praticamente diventavo un color nero, tipo sì, sì. Presentatore di com'è che si chiamava quello, il presentatore che sembra un Conti, africano, Conti. Carlo Conti, Carlo Conti, color Carlo Conti o Di Maio, ecco. Diventavo di quel colore, questo, di nero questo carbone. Sì, sì, è vero, questo... In pratica tornavo indietro che ero super abbronzatissimo, perché passavo senza tre creme mesi solari, senza niente, crema solare, come dici tu, tre tipi c'era crema solare al mango, alla mela e alla papaya, ma non è che c'era Ma l'ustione era normale, mica pensavamo di non farcela, cioè dovevi bruciarti all'inizio della sì, vacanza. Sì, dicevano ti bruci la prima volta, poi dopo non ti bruci più, no? Ma io in realtà penso che noi, quando, cioè nel senso, in quel periodo eri sempre costantemente fuori casa, chiaramente, perché sì, eri in un ambiente tra virgolette sicuro, e quindi neanche ci pensavi al discorso se ti abbronzavi o non ti abbronzavi, cioè pensavi solo al fatto che stavi fuori casa, che eri fuori, che eri fuori, insomma. Basta, cioè, io poi mi ricordo che tornavo a casa, quando abbassavi la casa, ti abbassavi le mutandine per andare in bagno, vedevi le mutandine bianche praticamente, la forma del costumino appiccicata al corpo, sì, perché eri il culo tutto marrone bianco. E il culo completamente bianco. C'è Pier Grippa, Pier Grippa che dice che lui in Liguria solo in inverno perché c'è stava lo iodio e faceva bene. Alassio, Cereale, Borghetto, Cereale. E le grotte. Cereale, c'era un mio amico che poi è stato mio testimone di nozze, Renato. Il mio testimone è Renato Della Bella, che forse ci sta ascoltando tra gli ascoltatori. Renato, che mi ricordo lo chiamavamo l'uomo sudore. Oh, madò. Quando giocavamo a basket in spiaggia, lui sudava tantissimo e intanto vinceva sempre a basket, perché non riuscivi a prenderlo, perché sudava talmente tanto che quando ti avvicinavi faceva swish. Sai che lo sai che pure io forse era così. Vabbè, io è vero che poi, cioè nel senso, poi crescendo ai 16 a 7 18 anni, cioè, era un continuo movimento, quindi c'eravamo sti fisici, capito, che eravamo proprio magrissimi e super scattanti, eravate magrissimi. Vabbè, ma tu Simone, tu a Roma avrete avuto i soprannomi, immagino, come tutti i romani, Ersecco, Erciabatta, ci stavano anche da noi, avevamo i soprannomi. Io al mare a me mi chiamavano Schiena, perché ho sempre avuto le spalle abbastanza larghe e la schiena, e da dietro ero tutto schiena praticamente. Schiena, bellissimo. Schiena non l'ho mai sentito, devo dire. No, Erpanna, perché era Erpanna era quello montato, capito? Era quello un po' Ersecco. I soprannomi. Mi ha sbloccato anche a me. Tutti avevano, comunque, tranne me, io ce prima. Tu eri tu maiuolo. In spiaggia cadevano da tutta Italia le stesse cose. Il fotografo col leoncino era tipico degli anni 70, grande. Ma anche questo, E vabbè, pure questo, fantastico. Insomma, dai, che... questo devo dire che c'è ancora, si sono andato recentemente, sì, l'anno scorso, è eterno, eterno questo. Beh, ci sono alcune cose che non cambiano mai, grazie a Dio, anche da una parte. Però c'erano quei venditori ambulanti, che quelli stanno sparendo, quelli italiani soprattutto, quelli che ti venivano a vendere i Rolex falsi e cose. I Rolex, i bomboloni. Io mi ricordo a Palermo alla spiaggia di Mombello, d'estate, un caldo bestia, il tizio che portava le ciambelle fritte, e io mi sono detto, ma chi è il pazzo che con sto caldo si mangia la ciambella fritta? Poi ho sentito l'odore e me ne sono mangiate due, cioè nel senso, beh, ovvio. Ma erano buonissime, si scioglievano in bomba, e sta bene la fame, sta buona. Anche da noi c'erano le ciambelle fritte. Aspetta, c'era poi la cosa che ha scritto Davide, gli aeroplani con la pubblicità attaccata, che a volte non in spiaggia, che a volte non era solo la pubblicità, se tu ti ricordi, che lanciavano i volantini bravo. A volte però il messaggio era un messaggio d'amore, se voi vi ricordate, la dedica, mi è capitato, sì, anche. Poteva essere Silvia ti amo, e che poteva essere pagavi. Tutti quelli che c'erano, una ragazza che si chiamava Silvia, si mettevano lì, facevano una colletta andavano dal tizio e faceva Silvia Diana, tanto poteva essere chiunque Silvia, no? E lui dice guarda Silvia, Silvia ti ho fatto questa dedica, ah, ti amo, grazie, grazie. Beh, in realtà l'aveva fatto qualcun altro, io so, insomma. No, però... voi avete mai avuto gli Aquiloni? Sì, non c'ho, non so, mai stato un fan, devo dire. Li guardavo. Sì. Bravo, sì. C'erano quelli che ce l'avevano che erano bravi. Ma esistono ancora? Io avevo Lufo Solar. Sì, ci sono ancora. Io sono con Lufo Solar. Basta, dai, che ne abbiamo parlato 70 volte. Io voglio parlare del Lufo Solar. Ancora. No, sì. comunque ragazzi, cioè, nel senso, tutti gli ammennicoli, secchielli, palette, cose, insomma, ombrelloni, cioè veramente è cioè uno dice vabbè, tante volte oggi è molto più smart, no? Anche di andare al mare, ti porti lo stretto indispensabile, perché al massimo se ci sono cose che ti servono le trovi là, no? Nel senso, E invece una volta si partiva, perché comunque come posso dire, tutto il bagaglio da era mare, il bagaglio da mare era un investimento, quindi non è che ma terrazzino, sì, io in quello ero più fortunato, perché i miei, avendo la casa affittata tutto l'anno là, noi lasciavamo le cose là nella casa, certo, del mare, sì. Quindi eravamo più leggeri, però conoscevo la cosa che facevano i miei amici con il fatto che avevano la macchina piena. Mio padre poi aveva la macchina da ricco, tra virgolette, che era, aveva l'azienda, e noi andavamo al mare in Liguria con la Giulietta dell'Alfa Romeo, che aveva i sedili in pelle scamosciata. Macchina nuova, io ovviamente cosa ho fatto in viaggio? Ho vomitato, no, in macchina. Mio padre me l'ha rinfacciato per tipo 20 anni questa cosa qua, perché gli ho macchiato indelebilmente i sedili della Giulietta nuova. E vabbè, ma che i bambini, ma succede, sono privo, certo, di mal di mare, di mal lo so, però ti viene quella voglia di strozzarle, sì. anche se succede, ti viene quella voglia. Volta mi diceva ma perché voi eravate i ricconi sulle macchine normali con la plasticaccia schifosa, quella cosa non succedevano chiaramente, no, veniva via qualunque cosa, tanto era sì, in un attimo pulivi. Io mi ricordo tanto le macchine da ricconi, che mio padre ci ha sempre avuto le macchine ammiraglie delle varie marche, perché era un po' così, no? Quando negli anni 80 le persone come mio padre hanno fatto i soldi, in qualche maniera dovevano ostentarlo, no? Cioè era un modo di ostentarlo, era anche questa cosa. Però è vero che a lui comunque le macchine piacevano. E mi ricordo che una delle macchine, forse l'unica macchina che ricomprò con leasing, quindi lui le cambiava periodicamente, fu la Lanciatema. Seconda Lanciatema che prese fu l'832, quella con motore Ferrari, quella edizione limitata, no? Che non so neanche quanto. Che c'aveva questi sedili. Calettone. Ma no, a parte quello, c'aveva dentro sti sedili in pelle vellutata, Alcantara, ragazzi, Alcantara. Una cosa insopportabile, cioè d'estate ci sudavi sopra quella merda che a vomitacce. E poi mio padre le macchine le sdraiava di fumo di sigaretta, perché praticamente lui diceva gli dava fastidio l'odore del nuovo, che invece è un odore tutto sommato piacevole, e le sdraiava di fumo di sigaretta. Quindi tu come entravi dentro la macchina, tra sti sedili che come li toccavi sudavi, e che, però gran macchina, per carità, gran macchina. Io al compimento dei miei 18 anni gli ho rifatto la fiancata alla tema turbo di mio padre, lasciamo stare. Bravo, hai fatto bene, hai fatto bene, perché era contento. Inconsapevolmente ti sei vendicato di me, capito, cioè l'hai fatto per me, insomma. Comunque, più avanti, quando parleremo delle vacanze, quando siamo più grandi, racconterò l'avventura dell'auto che mi ha prestato mio padre. Vabbè. Comunque, che mio padre ha avuto tutti questi macchinoni, Mercedes, Audi, in base agli anni, però ricordo quel Mercedes, quelli tipici degli zingari, quei giganteschi, sai, quello bianco. Degli zingari, è bellissimo. Comunque, facciamo una cosa, perché se no. Aspetta, no, è partita, dopo me lo dici, dopo. Strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le Vabbè, ricordiamo, questa è Giuni Russo, grandissima, un'estate al mare, che giustamente non abbiamo detto prima, abbronzatissima di Vianello, che vanno citate, insomma, le canzoni. Già non dovremmo metterle, ma ora che le mettiamo, insomma, almeno citiamole, insomma. Quindi, e vabbè. La si ha, sì. E questa è una canzone, se alla fine il ritornello è quello che raccontiamo noi, cioè nel senso, a un certo punto si andava al mare, cioè basta, non è che poi si andava al mare, e al mare, come dicevamo, lasciavamo il gruppo A per il gruppo B, ma sentivi un po' quando stavi per partire il magone perché lasciavi, ma eri felice perché trovavi, e quando tu arrivavi eri veramente, cioè era uno switch, cioè nel cervello, sì, di ognuno di noi scattava uno switch, cioè nel senso c'è una... La Vai. Cosa che volevo dire prima, che mi hai interrotto con la canzone. È partita la canzone. Era semplicemente l'ultima cosa che anche questa aveva messo Davide, ha fatto notare Davide nel documento, ma secondo me è fondamentale. Era il periodo che non esiste più, che vivevamo in quel periodo lì, il periodo della siesta. Cioè, cosa succedeva dopo il pranzo? Prima di andare in spiaggia c'era un periodo di non vita, cioè praticamente direi dall'una del pomeriggio fino alle 3:30, 4 più o meno, dove i genitori si riposavano e dormivano, e noi ragazzi ci dicevano fate i compiti, poi noi non li facevamo ovviamente, e vivevamo in questo periodo, cioè tu uscivi e c'erano in giro solo i bambini, i ragazzi, i giovani, in giro per il paese dove ti trovavi, in strade deserte, silenziose, e vivi questo periodo della siesta, dove tu potevi fare quello che volevi, andare in bicicletta in mezzo alla strada, giocare a pallone, perché tanto sì, è vero. C'era il deserto dei tartari in giro praticamente, e poi si ritornava tutti in spiaggia. Anche i negozi erano chiusi, perché tanto stavano aperti quella sera, esatto, sì, aprivano, ma anche aprivano alle 4. Il caldo, io ricordo, era quello, anche perché si mangiava non poco all'epoca, non è che c'era, esatto, la dieta, il vegano. No, ma io penso che quello che latina, cioè quello che voleva di Carlo valeva tutto. Secondo me quello che voleva di Carlo è il fatto che comunque c'è stato un momento in cui prima che i nostri orari anche professionali si adeguassero al resto del mondo, noi lavoravamo, e da mezzogiorno e mezzo fino alle 4 c'era sto un po' quello che dicevi te, Roberto, della Spagna, no? Cioè, esatto, senso, alla fine le città si svuotavano, diventavano improvvisamente, perché i genitori tornavano a casa a mangiare, esatto, bravo, esatto. Esatto, infatti io questa cosa me la ricordo bene, perché aspettavamo sempre che ritornasse mio padre per mangiare, insomma, quindi esatto. Ma sì. E vogliamo parlare dei grandissimi amori infranti, della fidanzatina fatta al mare, che inevitabilmente certo. Sì, questo lo fai solo te, però no però aspetta però prima un secondo soltanto, giustamente, vabbè, qui PRG parlava dei tormentoni, Claudia che salutiamo dice oddio, noi andavamo al mare con la Due Cavalli, ragazzi, grande, bravo, un applauso, perché cavalli, davvero io quando ho avuto la patente la mia macchina è stata a Renault 4, quindi non eravamo tanto lontani. Era quella che aveva il tergicristallo che bisognava farlo girare a mano. non so se qualcuno di voi, io vorrei farla una puntata sulle macchine, perché c'è la, non possiamo non citare la palla. Io sono andato in A112, se per questo, cioè. A112 la ritmo, vabbè, ma poi ne parleremo di questa cosa. Prima Piergi diceva, io mi ricordo la fila davanti alle cabine telefoniche. Allora ragazzi, tutti coloro che avevano la fidanzatina nel periodo di scuola, quando partivano e ci si, i primi due giorni ci si telefonava, i primi due giorni, i primi due giorni ti telefonavi, facevi la fila, al terzo giorno già te l'hai rotto il cazzo, perché tanto comunque hai visto già la ragazzina dagli occhi celesti, la tipa biondina con le lentiggine, poi cioè, volevi tutto, cioè, nel senso, ed era insomma, vabbè, questa la cosa degli amori infranti è una cosa carina, perché in realtà l'estate lo chiamava sta cosa, cioè, non, chiaramente non vale per tutti, però in generale l'estate è il periodo in cui si tacchinava tantissimo, cioè proprio, ti veniva proprio naturale, era una cosa proprio ormonale, penso, insomma, soprattutto quando eri abbastanza ragazzino, no? E ovviamente quando finiva l'estate, tra tutte le cose di cui parleremo poi dopo, perché chiaramente Davide ne ha fatto menzione, no? Quella sensazione della fine dell'estate, no? Tra le tante cose c'era anche questo, no? Il fatto che magari ti dispiaceva, il fatto che ma tanto poi non ci vediamo, ma no, ci vediamo, e anche lì durava due giorni, insomma, nel senso, lo switch off e diventava poi uno switch off on, cioè nel senso, alla fine quello che spegnevi riaccendevi quando tornavi, insomma, e da lì magari riallacciavi anche cose che già c'erano, capito? Quindi come si sta, t'ho pensato sempre quest'estate. E vabbè, vai Roberto. No, però era la cosa divertente, divertente detta adesso, ma all'epoca un dramma esistenziale era. Sai, poi all'epoca ti prendevi le cotte fenomenali, delle cose terrificanti, quindi tu vedevi questa cosa, pensavi sì, durerà per sempre, per realtà, cioè, era impossibile, perché davvero era anche difficile telefonarsi, sì, certo. Era costoso, certo. E al giorno d'oggi, volendo, anche un ragazzino, se volesse veramente, potrebbe avere una relazione a, tra virgolette, a distanza, perché ci si può vedere e ci si può anche spostare in maniera semplice. All'epoca era stare a Milano e a Roma era quasi veramente la stessa cosa che stare a Milano e a Washington, perché tanto, sì, sì, tanto non ci potevi andare, quindi non cambiava niente. Non era così facile, non è neanche così rapido, voglio dire, così immediato, insomma. E quindi c'erano, io ricordo queste cose, queste passioni, queste cose in tutti i campi, che erano veramente molto forti. Sì, ho detto per le ragazze, ma anche per molte altre cose. Fra di noi, insomma, possiamo anche parlare l'interesse per il computer che avevo io quando ero ragazzino, adesso mi piace, ma non è paragonabile a quello che avevamo a quell'età. Mi sembrava quasi che tutte le cose erano amplificate. Oddio, questo probabilmente è una cosa normale dell'età. Questo è la curiosità dell'età. C'è da dire che, al contrario di Simone e Roberto, io e Davide invece eravamo siamo due cyborg, perché noi le ragazze non le guardavamo, ma andavamo a cercare i nuovi videogiochi arcade che erano usciti nei vari stabilimenti balneari e sale giochi, facendo l'elenco entrambi. Ma potevi fare ufficio. Entrambe le cose? Io ti devo dire che l'estate del VIC-20, quindi il primo anno del VIC-20, io penso che quando sono da scuola ero abbastanza bianchiccio, devo dire, ho passato l'estate sul VIC-20, ma fondamentalmente anch'io ci ho avuto queste fasi molto nerdiche, però poi c'avevo la contrapposizione, cioè nel senso, comunque poi dopo ho sempre fatto tanta vita sociale, devo dire la verità, forse un po' anche con presunzione, sono stato anche avvantaggiato dal fatto che da ragazzino ero pure belloccio tutto sommato, quindi alla fine questa cosa mi ha sempre avvantaggiato, cioè, ho sempre avuto tante cose che mi giravano intorno, insomma, e alla fine era, cioè, tutto quello che vedi tante volte nei film, in quei film tipo Sapore di sale, no? Queste cose qui, alla fine comunque io ho vissuto anche cose un po' particolari quando sono cresciuto, tipo, ecco, quando dicevamo la mamma sconsolata che rimane da sola perché il marito insomma, ragazzi, succedono certe cose, però insomma non dovrebbero succedere, sono cose brutte, ma andiamo avanti, insomma, su questa cosa qui. Beh, io comunque a mio discolpa non ero belloccio in quei periodi decisamente con la difficoltà nella, in quel tipo di cose, per cui mi buttavo ampiamente su, su altre cose, sui, sicuramente su, sui giochi. Però quando ero molto piccolo, in realtà no, adesso bisogna vedere anche le fasce d'età. Comunque, diciamo, quando è arrivato il periodo dei videogiochi, per me andare al mare era andare in sala giochi praticamente. Passavo le giornate lì, e proprio in quel lasso di tempo di cui parlava prima Carlo, no? Dalle 14 alle 16 era l'ideale, non c'era nessuno nelle sale giochi, c'eravamo solo noi che giocavamo. Andavi là bello tranquillo, le giravi tutte, ce n'erano 5 o 6, migravi da una all'altra, sceglievi quella che aveva il gioco più facile, lo stesso gioco ma più facile, quella che costava magari qualcosina meno, anche se erano abbastanza tutte uguali come costi. E quella c'aveva il gioco X, quella c'aveva il gioco Y, per cui facevamo le nostre giri, le nostre migrazioni. E ho avuto anche alcuni amici che condividevano questa vita, chiamiamola così, e quindi non ero da solo, andavo sempre in 3 o 4, partivamo e ci divertivamo così, e eravamo tutti nella stessa barca, come al solito, come proprio lo stereotipo vero dei film che vedete, eravamo proprio così. E ce la sognavamo e basta. Comunque io mi ricordo tanta vita anche sociale all'epoca al mare, e i giochi soprattutto che si facevano al mare, qualcuno l'abbiamo elencato nel documento, se non mi ricordo male. Io ne ho aggiunto uno in particolare, che era la guerra dei gavettoni. Sì. Ma noi eravamo, si faceva da più grandi, però quello io lo facevo quando ero un po' più grandicellino, da bambino non tanto, sì. Facevamo grandi buche. Beh, da bambino gioca con le biglie, quelle cose lì, ovviamente. Sì, sì. Sì. Io parlo già che avevi magari quei 12, 13, 14 anni più o meno, quell'età lì, ma noi eravamo super organizzati, facevamo proprio la guerra con i gavettoni, ma del tipo proprio che organizzazione militare con soldati, eccetera, pianificazione della battaglia. No, ma la guerra dei gavettoni era una roba seria, proprio, ragazzi. Era una roba seria. Cioè, ma invece il fucile d'acqua, squadre, quello enorme, se tu hai Liquidator. Fucile d'acqua. Liquidator, però quello mi sa che era roba. Liquidator è arrivato, però già sì, era. Cioè, sì. Io lo voglio ancora. Le pistole ad acqua, pistoline, sì, ad acqua stupide. Sì, no, la pistolina ce l'avevo, ma pure il fucile c'era, però non era il Liquidator. No, devo dire la verità, che io il Liquidator, se me lo voglio ancora, ma adesso se ci riesco lo faccio comprare da mia moglie quest'estate. Liquidator che avrò avuto più di 20 anni quando sono arrivato. Vediamo se questa è una cosa che succedeva solo a me o la facevate tutti per fare la pista, per giocare con le biglie col sulla culo, sabbia. Col culo e si tirava le gambe regolare. Assolutamente. E poi dopo, alla fine, quello che veniva usato per fare la pista, dopo si doveva svuotare il costume dalla sabbia. Perché... sì, comunque, quindi è comune a tutti, insomma, questa pratica. Di solito si usava quello più magro e più piccolino per fare il trascinamento, che era più facile. Poi dopo... con i biglioni di plastica con dentro i ciclisti, i calciatori. Assolutamente, ovviamente poi tu avevi quello preferito, quello... ma Gimondi, scusate ragazzi, Gimondi. Io avevo la filastrocca di Gimondi, ma me la ricordo solo io. No. Lo ricordi anche te? Con gli occhi rotondi. Arriva Gimondi con gli occhi rotondi, la testa quadrata e la bici scassata. Esatto. No, questa non l'ho mai sentita. Vedo Ciccio Bongo cannoniere con 3 buchi nel sedere. Sì, non me la ricordo. Certo, mitica. Sì, arriva Gimondi con gli occhi rotondi. Mai sentita. Io conoscevo quella tutti. Allora, quella è la canzone che si cantava all'oratorio. All'oratorio, perché tu non conosci le versioni serie, che è oratorio. Beh, ma guarda che l'oratorio, mica è l'oratorio, succedeva di tutto. Certo. Lasciamo stare. Bravo, hai detto bene, non entriamo sta argomento. Che meglio. Comunque, ricordando dei giochi, a parte i giochi elencati, che è una cosa che non ho elencato, ma che ho detto forse in un messaggio vocale oggi. Io ricordo che sui giochi in spiaggia, in particolare in spiaggia, se vi ricordate un po' tutti, cioè oggi andare al mare, parliamo di oggi un secondo per ricordare poi invece il passato, il vostro vicino di ombrellone è il vostro vicino di ombrellone, non sapete chi è, non vi frega sapere chi è, meno avete a che fare meglio è, e possibilmente che non rompe i coglioni. Invece in quegli anni il vicino di Ombrellone, che era uno sconosciuto, che stava e che per chi come me andava in albergo e aveva l'ombrellone sempre il numero 53, e per cui la mattina tu arrivavi là, avevi il tuo ombrellone, era il 53, di fianco c'era il 54 ed era, c'era un'altra famiglia. Questa famiglia non sapevi chi fosse il primo giorno ed in pratica, e ci convivevi, e era normale e naturale, capitava frequentemente che io, i figli di quel fianco venissero curati dalla mia famiglia e viceversa, in maniera così, senza neanche, sai, avere il pensiero ma a chi fidiamo i nostri figli, chi sono questi, noi dobbiamo andare al bar, poi curare un attimo i nostri figli, sì. Poi i figli che già giocavano magari con il secchiello, le palette, con gli altri vicini di Ombrellone, e nel momento che erano lì che giocavano dicevano: noi andiamo un attimo al bar, li lasciamo qua che giocano con i vostri figli, che voleva dire curateceli, in poche parole. Beh, però diciamo una cosa, che sì, secondo me l'estate in qualche maniera, che comunque veniva vista da tutti, sia dai ragazzini che dai genitori, chiaramente, come un momento di liberazione in qualche maniera, era la libertà e la liberazione allo stesso tempo. Comunque secondo me alcuni freni, alcuni meccanismi, alcuni come posso dire, regole sociali che tu mettevi in atto durante la tua vita regolare, secondo me in quella fase, in quei 2 o 3 mesi un po' si ammorbidivano, ecco, diciamo così. Quindi magari facevi cose che nella vita normale non avresti mai fatto, anche perché magari la confidenza che davi magari a certe persone potevi anche benissimo dire: ma tanto fra qualche settimana non lo vedo manco più, cioè, nel senso. Però in generale sì, questa cosa, sì, che dice Davide è così. Per oggi, cioè, lasciare il tuo figlio, sì. Beh, no, io la vivevo anche in una maniera molto più conviviale, nel senso che col fatto che andavano più o meno sempre le stesse persone, più o meno sempre la stessa compagnia, eccetera, diventava come un piccolo paese in trasferta. Sì. Io non dico che non ci conoscessimo, sì, tutti, ma ci si andava vicino, sì, comunque. Sì, sì, cioè, è vero. A Borgo Venezia alla fine la gente che c'era la conoscevi tutta, tanto che noi ragazzi eravamo completamente liberi di andare, cioè io a 6 anni andavo in giro da solo per il paese a qualsiasi ora, e non è che mia mamma si preoccupasse perché ero in giro per Borgo a piedi, girare, andare in giro, eccetera. Cioè, io potevo essere in giro, potevo andare in spiaggia, potevo andare all'edicola, potevo andare al negozio dei giocattoli, tornare indietro, andare alla sala giochi e tornare indietro. Nessuno si preoccupava del fatto che io fossi in giro per il paese da solo e avevo 7 anni. Questo è sacrosanto. È anche vero, e qui forse magari faccio quel discorso un po' da vecchio che a Carlo non piacciono, è che una volta si faceva amicizia con più naturalezza, magari, cioè, nel senso, comunque, cioè, io mi ricordo che comunque alla fine la gente socializzava, no? Questo in generale, a parte quello che testava proprio sui coglioni o che magari era proprio uno stronzo di natura, in generale comunque le famiglie si incontravano proprio, cioè, in questo, cioè, nascevano proprio grandi amicizie, importanti amicizie, magari, cioè, ma è vero. Io, 2 tra i miei più cari amici in assoluto della mia vita, e che ancora oggi lo sono, sono persone che conosco da quando ero ragazzino al mare, cioè, quindi alla fine siamo rimasti sempre, e anzi, forse oggi il fatto che comunque c'è questa tecnologia che ci fa magari approcciare diversamente ci permette, magari ci permette di essere più in contatto di quanto lo saremmo stati o quanto lo eravamo allora, insomma, questo è chiaro, insomma. Apro solo una parentesi velocissima su questo argomento. Io mia moglie l'ho conosciuta al mare, tanto per dirvi, così, giusto per, erano altri tempi, ovviamente ero un po' più grandicello, però comunque per coincidenza, diciamo, mia moglie l'ho conosciuta lì. E ritornando velocemente a quel discorso delle famiglie, no? C'era questa, io nel mio caso specifico ogni anno andavo più o meno nello stesso albergo, diciamo che ho cambiato 5-6 alberghi, ma ci stavo, non so, 3 anni ci siamo stati in uno, 4 anni in un altro, però era sempre in quella zona lì, andavo sempre a Riccione e andavamo sempre più o meno in una zona, però il vicino di Ombrellone era sempre diverso, per me ogni anno il vicino era un altro, a parte che andavamo quasi sempre io, cioè la mia famiglia e la famiglia dei miei vicini di casa, andavamo, quindi eravamo sempre in una specie di coppia di famiglie accoppiate, quindi avevamo sempre un backup di gente che poteva badare ai figli dell'altra famiglia, eravamo famiglie con 3 o 4 figli e avevamo questo pseudo backup, ma comunque anche i vicini stessi diventavano come se fossero i nostri vicini di casa davvero, e non avevi neanche il minimo dubbio di dire gli lascio lì mio figlio senza dire chissà chi cacchio sono questi, si lasciava proprio con la naturalezza e relax totale, senza nessun dubbio o problema di chi potessero essere questi signori che magari erano degli assassini, che ne so, non potevi saperlo. No, non potevi saperlo, e forse allora non lo potevi sapere ancora di meno rispetto a quanto potresti potenzialmente saperlo oggi, però diciamo che c'era più fiducia su questo sicuramente, c'era più voglia di avere fiducia, perché comunque e ti attesti i ragazzini un attimo un po', perché cioè alla fine no, perché ho detto alla fine era una liberazione un po' per tutti. Però vi voglio fare una domanda, ma poi dove andavamo? In che senso? È una domanda importante. Dov'è che andavamo? Quando stavamo al mare dov'è che andavamo? Perché insomma cioè andavamo da qualche parte, no? C'era un posto dove andavamo. Ho sbagliato, ragazzi, non volevo fare questo. Esatto, però. Infatti è messo la quella finale. Vabbè, scusate, mi volevo. Rifai la domanda, facciamo finta di niente, riparti. Vabbè, comunque sti casi. No? Comunque facciamo una pausa musicale, perché questo giustamente poi dice Davide, dice, ma voi ascoltavate sempre le musichette, quelle, insomma, quelle italiane. Io invece sentivo roba più importante, più alternativa, più gagliarda. Questa è la musica che ti ricorda il padre. Beh, questa è i jukebox. Ricorda tante cose. Jukebox. Tutti a ballare. Ma hai ricordato i jukebox in spiaggia? C'era sempre il barettino, c'era sempre il jukebox Tamarro con i bassi caricatissimi con i dischetti. E chi ti ricorda le musiche che mettevate nei jukebox? La prima che mi viene in mente è quella 200 lire. Io mettevo a casaccio. Io Born to be Alive. Born to be Alive. Io niente. Io mi ricordo. Ascoltavi gratis. Quelle degli altri. Io mi ricordo che mettevo quella degli Olive and Onions di Bud Spencer, che non mi ricordo più. Ah, beh, vero, che bello, giusto. Sì. No, io in realtà ero talmente affascinato dal fatto di dover mettere la moneta, spingere dei pulsanti e vedere questi dischi che si muovevano dentro, che si posavano, si facevano, che spingevo a caso, cazzo a me dalla musica. Io volevo vedere come funzionava. Però questo era molto. Volevi vedere il jukebox che si muoveva. Esatto, bravo, esatto. E poi mi piaceva. Ma io il jukebox che usavo io negli anni 70 non si vedevano più, erano più quelli degli anni 60 che vedevi il disco che si muoveva. Io me li ricordo. No, tutti. Sì, a voglia, se me lo ricordo io che sono più giovane di voi. Qualcuno c'era. Era me li ricordo chiusi. Vabbè, anch'io mi imbambolavo davanti a guardarlo quando prendeva il disco, era bello da vedere. Molto. E se vogliamo dare una conclusione anche ai vari giochi, perché poi dopo magari i giochi che facevamo da un po' dopo erano diversi. Me lo diciamo auguro. Che il gioco come si dice, il gioco numero uno, almeno per quello che facevo io quando andavo in questi paesi di villeggiatura la sera, qual era il gioco? Io c'avevo questo mini golf che era la tappa, almeno una o due volte mini golf bisognava andare sempre, a fare sempre il giro al mini golf. Beh, e c'era il mini golf e c'erano i go-kart, io mi ricordo che andavo anche i go-kart. Beh, c'era anche il Luna Park, c'era il quasi Luna sempre il Luna Park lì in zona, una giostrina più che altro, la giostrina, bravo. Beh, le giostrine, quelle sì, era un classico. C'era addirittura, a un certo punto, le giostrine le mettevano anche per chi aveva le spiagge attrezzate, il bagnino della spiaggia attrezzata, un qualche giochino lo piazzava anche lì, per chi era pagante e utilizzava i loro servizi, potevano usufruire della casettina, dello scivolino, della trampolino, piccolo trampolino, di quelli che adesso bisogna fare il certificato medico per andarci sopra. Invece noi andavamo a fare dei giochi che lo scivolo non lo usavamo ovviamente scivolando, ma ci si cappottava dentro, ci si rotolava in piedi, si scende, si surfava in piedi, sì a capovolti, si saliva al contrario mentre uno scendeva e ti arrivavano i piedi in faccia, cioè facevamo di quelle robe che era tutto normale. Poi se ti spaccavano il naso era dai metti qua un tovagliolino. È vero, è vero, è vero. C'era più selvaggina, insomma, diciamo così. Che rompimento di palle, dai, mettiti sto fazzoletto e piangere. Non rompi i coglioni, dai, sì, è vero, Adesso invece pronto soccorso, ambulanza, eli soccorso. Denuncia, oggi si denuncia. Torna a Milano. Comunque prima quando ricordavi un po' con la musica eccetera, mi è venuto in mente gli assembramenti tutti insieme a fare qualcosa, perché era abbastanza normale che o l'albergo o la spiaggia o la compagnia dello stabilimento piuttosto che dell'albergo ci si ritrovava a fare qualcosa tutti insieme, che erano tante cose. Una era anche vedere la televisione insieme, perché la televisione non la vedevi più in quel periodo lì, esatto, no? Cioè te la scordavi, no, però c'era proprio la televisione. Esatto, c'era la televisione in comune per gli grandi eventi, che io quelli che mi ricordo era la Formula 1, i mondiali di calcio quando c'erano, però quelli erano ogni 4 anni, quindi non era sempre, però esatto, tutti gli anni sicuramente si guardava la Formula 1, il ciclismo, la Formula, questi avvenimenti sportivi dove c'erano tutti attaccati alla TV. Io mi ricordo la Formula 1 in particolare perché non è che a me piacesse granché, poi ero piccolo, però mi ricordo le macchine, quelle con tante ruote negli anni 70. Me le ricordate quelle con sei ruote, con 8 ruote? Beh, io ero fortunato, non c'entra niente con le vacanze. Non sei Roberto, scusa. Mi senti? No, sì, dico, non sei Roberto. Sì. No, perché hai detto sei fortunato. Quindi, Dio mio, vada, questo succede. È l'orario, scusatelo, poi verrà cassato dalla registrazione sul podcast. La pasticca. e quindi mio padre ha sempre avuto i biglietti per andare a vedere sia a Monza che quando c'era ancora, vabbè, adesso è tornato a Imola. E quindi noi andavamo a vederle tutte ed erano cose spettacolari. E di solito nelle hospitality, che sono adesso sono molto diminuite, erano quelle organizzate dai club, ed erano delle cose fenomenali da vedere da dentro. Oh, aspetta che giustamente Piergice dice: ma mai avuto un occhio nero giocato a minigolf? No, cioè per quanto mi riguarda a me, ma le reti elastiche, i jumping, vi ricordate i jumping? Mi sono rotto il dente, trampoline, è vero. No, ma sì, io con i jumping, cioè ragazzi, passavo, a parte che ci conta 10 minuti, di un quarto d'ora al massimo, cioè mi ricordo durava c'erano i suoi tempi, uscivo che ero frascico di sudore io da qua, roba. Ma è quel coso dove si tiravano i pugni? Il punchball. Sì, quelli circolavano per le strade di una park. Sì, li mettevano anche per strada, comunque, insieme alle bilance, quelle che dove mettevi dentro 100 lire per pesarti. Però permettetemi di dire che tutte queste cose sono sicuramente collegate all'estate, ma sono un po' più collaterali, no? Nel senso, in realtà, secondo me, l'estate è un po' quello che abbiamo raccontato. Io vorrei fare un piccolo step in avanti, anche perché come al solito noi ci piace, cioè alla fine raccontare noi stessi, raccontare il nostro periodo, e quindi alla fine non ci rendiamo conto che passano le ore praticamente e noi siamo ancora qua. Vorrei fare uno step in avanti mettendo questa canzone che introduce parallelamente due temi fondamentalmente, che non è necessariamente il tema dell'amore in sé o quando comunque si andava a rimorchiare, ma prevalentemente il tema del quando si cresce, cioè del quando a un certo punto esci da questo meccanismo della vacanza assistita nell'uovo, nell'ovatta nella quale sei stato posto fino a quel momento, come diceva giustamente Carlo, il fatto che all'interno di un contesto dove tutti conoscevano tutti e tutti erano al sicuro, ma quando hai deciso di fare il primo viaggio da solo o da solo con i tuoi amici, con quelli che erano i mezzi tipici dell'epoca, che erano quelli più a portata di mano e che erano allo stesso tempo anche i più precari, no? Perché alla fine viaggiare in treno, viaggiare in aereo era assolutamente escluso proprio a priori, ma anche in treno non era così alla portata di mano, insomma, e quindi tante volte si prendeva la macchina che si aveva a disposizione, o quella del padre o quella del nonno, insomma, che di solito erano sempre macchinacce quelle con le quali si prendeva e si andava a fare il viaggio on the road, qualora qualcuno di noi l'avesse mai fatto, insomma. Ecco, ascolterei tre minuti, pochi secondi di questa canzone, perché secondo me è indicativa. Prego, sali, sali pure, non mastico l'inglese, I don't speak, so solo giusto qualche frase. È carina da morire, quanta roba porca loca, la Camilla, yes my car, qui mi si sbraca. Ride pure se non ha capito niente, le lenticchie sul nasino un po' all'insù, i capelli un po' arruffati, senza trucco, senza inganno, sacco a pelo, scatolette, gira il mondo tutto l'anno. E poi c'ha una bronzatura che ti frega anche un bagnino, io al contrario sembro proprio un latticino. Do you smoke, vuoi sigaretta? Che ti ridi, vuoi fumare? Mi fa gola, non capisce, ma è un amore. Cosa pensi dell'Italia? Do you like, come si dice? Come nome resterebbe bene Alice? Poi sorride, ride, poi sorride ancora. Penso che mi ha preso proprio in simpatia. Faccio un po' di mano morta, lascio un po' le cose a caso, l'avvicino dolcemente senza darci un grande peso, sotto un sole da deserto, sull'asfalto arrovellato. Vabbè, questa qua è Viva l'Inghilterra di Claudio Baglioni. Vabbè, aspetta. Viva l'Inghilterra, ma c'è nostro amore di lontanare. No, dicevo che questo cazzo di ritornello non arrivava mai. Quando aveva 12 anni qui all'epoca, il ritornello arrivava un quarto d'ora dopo. Esatto. No, ma la cosa bella di questa canzone, che è molto, cioè, nel senso, alla fine sì, Claudio Baglioni, vabbè, però è carino proprio perché in realtà descrive anche questa un po' una sorta di film, insomma, delle situazioni, no? E lui che parte con questa macchina sgarupata e incontra questa ragazza praticamente per strada, che fa l'autostop perché lei va in giro così, fondamentalmente. Mentre che lui praticamente la carica, perché lui sta andando verso l'Inghilterra, vuole fare questo suo viaggio da solo con questa macchina, c'è questa ragazza, non si capiscono, ma forse si piacicchiano. Allora lui ci prova, perché da buon romano qui ci fa la mano morta, prova a infilargli la mano sotto la camicetta, e questa, tipo, insomma, se incazza e lo vanno a fanculo, fondamentalmente. Ed è bellissimo perché, insomma, c'è questa descrizione di questa canzone che tutto sommato è carina, ma è carino il fatto dell'idea delle prime volte che magari ci siamo fatti il viaggio on the road con gli amici, o addirittura qualcuno magari anche da solo, insomma, no? Che poi qualcuno l'ha anche fatto da solo, perché anche quella è un'esperienza. Ecco, volevo sapere da voi se questo passaggio ha fatto parte delle vostre vacanze negli anni 80, in questo caso. Partiamo. Da chi iniziamo? Partiamo da te, dai. Beh, io, se diciamo il primo viaggio on the road, vuol dire che era già passato l'88 e quindi avevo la patente. Beh, perché sì, prima, okay, ovviamente non era andato on the road. Beh, io no, perché sì, comunque avevo alcuni amici più grandi, quindi alcune cose l'ho fatte, diciamo. Vabbè, comunque anche mo, adesso io mi sono soffermato sull'on the road perché chiaramente questa canzone ti chiama questo, no? Però poi la prima volta che sei andato in vacanza con gli amici, anche con il pullman, con la corriera, con quello che, esatto, senza i genitori. Prima volta che sono andato in vacanza da solo e sono state vacanze studio, cioè nel senso mi hanno spedito i miei, che avevo 15 anni e l'ho fatto per diversi anni dopo, ed è stato appunto in Inghilterra, ed è stata anche la prima volta che ho preso l'aereo in vita mia. Avevo 15 anni e i miei genitori a luglio mi hanno spedito, cioè dopo la fine della scuola di giugno, mi facevano fare luglio 21 giorni in Inghilterra a studiare tra virgolette l'inglese, nel senso che andavo lì e facevo 21 giorni con altri ragazzi della mia età e succedeva di tutto e di più. Adesso quello è stato un periodo incredibile, perché tu andavi in Inghilterra, fai conto che mi ha spedito in Inghilterra in 15 anni prima superiore. Voi avete presente il nostro inglese della prima superiore del 1985, certo, certo. Era, cioè, it's on the table. Ecco, quello era il massimo quando andava bene, cioè, poi, perché mica detto, esatto, quando andava bene. Quindi ci spedivano in Inghilterra, che non capivamo un cazzo di inglese, ma zero, proprio niente. E ospiti di famiglie alla pari, quindi vivevi in queste famiglie che ti ospitavano come studenti, e poi andavi in questa scuola dove facevi la mattina, ti insegnavano l'inglese in lingua, non capivi niente in famiglia, non capivi niente a scuola, uscivi fuori e andavi a... mangiavi di merda, è vero, ma tantissimo di merda, perché gli anni 80, ricordiamo, in Inghilterra non c'era ancora la globalizzazione, no, c'era un'alimentazione orripilante, sì. A dir poco, questo quindi, è comune a tutti quelli che ho sentito in Inghilterra, che non vedevano loro di tornare a casa a mangiare un piatto di pasta. Guarda, quando tornavi a casa la prima cosa è che almeno tretti di pasta da solo ti scofanavi, perché proprio uscivi da, come da andare in prigione, era la stessa cosa, cioè pane e acqua per 20 giorni praticamente, biscotti, quello che trovavi che sembrava commestibile, perché era una roba, cioè che a raccontarla adesso non ci crede la gente, ma era effettivamente così. Cioè, poi io in Inghilterra ci sono tornato tantissimi anni dopo, perché poi poi per diversi anni ho fatto la scuola e poi dopo l'università ho fatto anche un anno di università e poi ci sono tornato per lavoro, ed è cambiato tantissimo anche lì. Adesso vai in Inghilterra e riesci a mangiare in maniera decente, cioè si sono globalizzati anche loro, ecco. Certo. All'epoca era completamente diverso, era proprio però un'altra... questa qua era più che altro una vacanza studio, ma la vacanza con i tuoi amici era una vacanza classica. La vacanza con i miei amici l'ho fatta invece a 18 anni, che siamo andati con... io ho preso la patente, io ero uno dei primi ad avere la macchina mia, mentre gli altri magari usavano la macchina del papà eccetera. Io ho avuto la fortuna che mio padre la vecchia macchina della ditta me l'ha regalata praticamente per usarla io, ed era un Renault 4 scassatissimo, col quale abbiamo deciso dove andiamo in Corsica in campeggio. Ecco. Fai conto, dietro in l'angolo, in quattro con Renault 4, partire, andare alla Spezia, prendere il traghetto, scendere in Corsica, e abbiamo fatto la traversata della Corsica con Renault 4 in campeggio da una coast to coast, quindi con l'aria condizionata. No, ma non so se me lo ricordate, il Renault 4 aveva le marce davanti rialzate tipo francese, no? Come la Diane, che entravano praticamente la senza Diane, frizione. grande, esatto. Che cazzo hai ricordato? Avevi i finestrini che si aprivano a metà, sì, ma si aprivano lateralmente, non su e giù, a destra e a sinistra, li spostavi con un cursore praticamente. Ah, no, era una slitta. La slitta con un cursore a mano, li spostavi praticamente avanti e indietro, tutta di lamiera, praticamente pesantissima, e l'interno 8000 gradi, l'esterno fresco, mi pare che era un po' spugnoso, gommoso, se non ricordo. L'interno sì, c'aveva le sdraio, non c'aveva non c'aveva i sedili, c'aveva gli sdraio dentro. Vabbè, era comoda, perché quando poi andavi in spiaggia toglievi i sedili e li usavi come sdraio. E comunque vabbè, ci siamo fatti un'estate da soli indimenticabile. Ah, ragazzi, 1991. non ricordo male. Non c'entra assolutamente niente, però magari se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che è interessato, dal 1 maggio alle ore 00 tutte le persone della Regione Lazio categoria 4 di età tra i 40 e i 49 anni possono fare la prenotazione del vaccino anti-Covid. Questa è così, magari qualcuno può interessare. A me per esempio mi interessa perché rientro esattamente e quindi la prossima settimana mi tocca, insomma, vabbè. Bravo. Bene, bene, bene. Io vado lunedì a vaccinare. Bravo, bravo, bravo. Facci sapere. Lunedì alle 12:30. 12:35. Comunque, io sabato 8. Comunque, io per quanto riguarda me, le mie prime vacanze senza genitori, devo dire che in realtà sono corrispondenti sempre agli stessi posti dove andavo con i miei genitori, cioè che i miei genitori hanno smesso di andarci e io ho continuato ad andarci per moltissimi, moltissimi anni. E questa è una delle prime cose che un po' mi distingue. In realtà i miei viaggi da solo, veri, da solo con gli amici, sono tutte cose extra l'estate, quindi cioè nel senso che non... Sì, scusate. Non so che questa cosa in radio io non riesco a chiamare mai speaker, come fanno? Cioè quelli che non starnutano mai. Non stanno. Vabbè, comunque. L'antistarnuto. Con l'antistaminchia anche un po'. E che riguarda ovviamente viaggi che ho fatto per conto mio. E di solito, cioè per conto mio di solito d'inverno, cioè comunque d'inverno, in autunno. Neanche in primavera, forse più autunno-inverno. E di solito erano. No, forse anche in primavera, perché mo che ci penso, a volte erano una sorta di versione migliorata e corretta delle gite scolastiche. Cioè con un mio amico in particolare, per molto tempo noi le gite scolastiche le saltavamo oppure le facevamo, ma poi le rifacevamo facendole meglio, cioè nel senso andando nello stesso posto, andando a visitare tutte le cose che non avremmo mai potuto visitare. Però mi ricordo uno dei viaggi più belli che ho fatto nella mia vita con il treno, mi ricordo a Praga, allora si chiamava la Cecoslovacchia, era ancora la Cecoslovacchia, e mi ricordo che ci andammo in treno, ci mettemmo tipo un giorno e mezzo con la cuccetta a notte, quindi una cosa che oggi insomma si usa, perché poi alla fine ancora nei treni a lunga percorrenza ancora questa cosa c'è, ma la cosa bella è che veramente lì era, cioè, questo senso di distanza, il costo oltretutto, perché poi il biglietto è, e facevi queste esperienze, e mi ricordo che ho fatto questa bellissima esperienza a dicembre a Praga con un freddo della miseria in un appartamento affittato tramite l'ente del turismo statale, dentro una casa dove quando tu andavi a fare la cacca ovviamente si attappava il cesso e la signora che era la stanza adiacente ti entrava in casa in automatico, cioè non è che tu glielo dovevi andare, lei già sapeva che sarebbe successo, veniva, ti stoppava il cesso e se ne andava, e dove praticamente potevi vedere questa cosa che tu non avevi mai visto, cioè la televisione dove vedevi questi primi telefilm stranieri che arrivavano da loro, o programmi stranieri dove erano in lingua originale ma dove praticamente il doppiaggio era il sottotitolo parlato, fondamentalmente, cioè succedeva la stessa persona, succedeva esatto, succedeva questa cosa qua, poi Michela lo sa bene, l'abbiamo parlato tante volte, succedeva questa cosa qui che praticamente c'era don't kill me please, e quello sotto, poi c'era e poi c'era il cane che barriava, woof woof, sì, quello è il cane. Sì, perché fosse donna, uomo, bambino, è uguale, era sempre c'era solo uno praticamente, invece metti i sottotitoli, lui li leggeva i sottotitoli, leggeva i sottotitoli, leggeva il lettore di sottotitoli. Questo era il loro modo di doppiare ed è stata una cosa meravigliosa che io ricorderò sempre, anche io me la ricordo. Come mi ricorderò sempre, nella metropolitana di Praga, questa frase che ogni volta che arrivava il treno, o concert, hai visto panastop dove c'è Saviravi, che non saprò mai che cazzo significa, però da allora, a 30 anni di distanza, ce l'ho ancora dentro la capoccia, cioè ogni volta, un concert, hai visto panastop dove c'è Saviravi, e vabbè, a posto. Vabbè, dai. Io invece, io ho avuto un periodo un po' particolare, nel senso che io sono stato un po' un parassita e so belle cose di dire per se stesso. Parasite. Fino a 20 anni i 15 giorni di vacanza con i miei, o anche 21, 22, li ho sempre fatti scroccando. E quindi il periodo che loro sceglievano, facciamo finta che sia dall'1 al 15 agosto, che poi in generale era sempre suddiviso in due, diciamo negli anni 80 si andava un 15 giorni in montagna, in particolare dove c'erano delle terme, perché mio padre, soffrendo di psoriasi, aveva la necessità di farsi una 15 giorni prima in montagna per curarsi della malattia che aveva, per poi arrivare al mare, diciamo, bello pulito, perché mio padre, come psoriasi, aveva tutto il corpo, dalle mani ai piedi, sì, alla sì, faccia, il torace, la schiena, ed è da vedersi, non era un granché. E dopo 15 giorni di terme, non dico che uscisse quasi come nuovo, ma poteva fare quei 15 giorni in spiaggia al mare senza troppo dare nell'occhio, perché comunque la psoriasi è una malattia che non fa un tubo di niente, cioè tu le croste le puoi anche mangiare se vuoi, sono però molto brutte da vedersi, imbarazzanti. Beh, anche, no? È anche invalidante come malattia. Io ce l'ho la psoriasi cronica e devo dire la verità che oggi finalmente si cura la psoriasi. Ma allora non si curava, cioè non esisteva la cura fondamentalmente, quindi alla fine c'erano tutta, anzi in realtà non si conosceva neanche bene neanche il meccanismo che scatenava la psoriasi. Esatto. Poi oggi ancora non si sapesse, guarda. No, ma oggi si sa che è una malattia genetica a base sistemica, cioè comunque è comunque un, cioè nel senso c'è i fattori scatenanti si conoscono, ma allora si presupponeva che fosse una dermatite dovuta al nervosismo. Esatto. Quindi alla si curava con dei bagni di zolfo, faceva delle robe, e alla fine tutto sommato in effetti il risultato per quei 15-20 giorni c'era, poi ritornava. Però sai, avendo vissuto con un genitore che ce l'ha sempre avuta, per me era una cosa normale, era normale, insomma. E neanche lui se ne faceva poi tanto un problema, però si faceva sempre questi 15 giorni, quindi andavo in montagna, andavamo a Comano Terme, oppure si andava a Salso Maggiore che non era in montagna, però si andava dove c'erano delle terme, e poi si andava al mare, io quel periodo lo scroccavo, e poi andavo con gli amici in un altro periodo. E il mio primo, la mia prima vacanza da solo, che è stata una vacanza che ancora ricordo, proprio memorabile, tutta la compagnia mia di dove abitavo, tutti insieme, una quindicina, siamo transumati, siamo andati a Jesolo e abbiamo fatto tante di quelle cazzate, ci siamo proprio veramente divertiti tanto, e abbiamo anche conosciuto lì, è stato il primo anno in cui ho conosciuto, ho avuto forse una pseudo rapporto con una ragazza, devo dire la verità. È meraviglioso pseudo, il fatto che era pseudo il rapporto, però. Sì, è stata una cosa che è durata pochissimo in realtà, perché l'ho conosciuta tipo l'ultimo giorno. Ah, che sfiga, che sfiga, è capitato pure a me una cosa del genere. Sì, è durato molto poco. Poi, siccome lei era tipo, come si dice, porca miseria, non mi viene il paese, di Veneto, e sai, ci si lascia sempre con il numero di telefono, poi ci sentiamo, poi ci vediamo, e mai più risentiamo. Ce l'hai ancora il numero di telefono? Il numero ce l'ho ancora, sì. Grande, lo sapevo, grande. Poi dammelo che la chiamo io, ci penso io, la chiamo io. Ho ritrovato un'agendina di quell'epoca con su tutti i miei telefoni, tutti i numeri di quelli che non solo lei, ma di tante altre che o altri. Io questo aspetto a Davide lo ammiro tantissimo, lui c'ha la capacità di archiviazione e di conservazione di cose che io niente, cioè proprio zero, non c'ho manco più quasi le fotografie di quando ero ragazzino io. Io ho anche dei numeri di telefono vecchi di casa mia o di posti dove lavoravo, dove dei miei parenti, che me li ricordavo a memoria, poi adesso li ho un po' persi, quando li rivedo tracco, mi si riaccende subito, è vero, cacchio, 9281 e mi ritorna in memoria subito appena lo rilego, però adesso ovviamente l'ho dimenticato. Quindi anche io mi ricordo il mio vecchissimo numero di casa 7024 710, ancora 6181881. Io mi ricordo più un cazzo. Sentiamo Roberto, comunque le sue vacanze, anche la sua prima. Allora, sarò breve anche perché l'ho già raccontata, E quella dell'Inghilterra quando avevo 7 anni. Sì. Vabbè, raccontare un'altra. Memorabile. No, sì. E beh, sono comunque in Inghilterra quando ero più grande, perché era una buona scusa. Sei andato solo in Inghilterra. Da ragazzino piccolo, da solo, sì, però ho cominciato giovane, andavo ogni, non dico tutti gli anni, ogni 2 o 3 anni andavo da mio zio, quindi ero facilitato perché lui aveva un... Io ero a casa sua, però avevo un albergo e anche dei ristoranti italiani, quindi riuscivo a mangiare la pasta, se non altro, perché... Soprattutto negli anni 70 e inizio anni 80 il cibo inglese, come giustamente avete fatto notare, era assolutamente immangiabile. Io ricordo che chiesi, andai al ristorante, chiesi del pollo freddo, mi portarono del pollo ghiacciato, cioè pollo freddo si intende a temperatura ambiente. Ambiente, no, sì, esatto. Era freddo, ghiaccio. Freddo. Nel senso freddo, nel ghiaccio, pollo ghiaccio, ghiacciato, se lo sai. O il pudding, questo vuole la, questo vuole la granita di pollo, signori, granita di pollo al tavolo 7. Il ghiaccio buona, l'unica cosa buona erano i fish and chips. Ah, grande, grande, grande, grande, è vero, assolutamente. A parte il fatto che te li davano nel cartoccio di giornale con le scritte di giornale che si E vabbè, ma perché da noi era la stessa cosa, perché da noi le castagne come te le davano, però, cioè i cardaroste. Allora, le castagne non erano unte, le patatine fritte sì, quindi cosa succedeva? Che l'unto della patatina col giornale, l'inchiostro del giornale, è la scritta è vero, si tramutava è vero, sulla patatina. Però, erano, però fantastico, come il hai gusto detto, buono era quello. Però come, esatto, però come hai detto te Carlo, noi siamo dei sopravvissuti, quindi ne sì, dobbiamo sì, essere sì, fieri di questo, insomma. Erano buonissime e io li prendevo con le salsicce, che le salsicce inglesi hanno dentro del pane, non sono pesanti come quelle nostre, ricordo facciamo abbastanza schifo le salsicce inglesi, però va bene, dai, diamole per buone. Io mi ricordo le patate con l'aceto, non so come cose, no, le patatine fritte con l'aceto ce l'avevano, sì, me le ricordo. Sì, sì, sì. Beh, sì, sono sì, buone, a me piacciono. A voi pure a me. No, no, a me piacciono. Io l'unica cosa buona che mi ricordo di quegli anni in Inghilterra era la mela caramellata che avevano sul pier, cioè che era una roba che da noi ancora non si vedeva tanto. Sì, era una mela messa nel caramello, poi passata nella granella di nocciola e te la davano su uno stecco praticamente. Beh, quella era buona, buona. Era una roba naturale che diventava una bomba calorica. Vabbè, ma cosa bellissima, lì tutto era una bomba calorica. Vai, vai, vai, scusa Roberto. Era, e quindi diciamo, lasciamo perdere 7 anni che non capivo niente, però quando ero un pochino più grande, quindi 13, 14, 15 anni, era comunque un mondo totalmente moderno rispetto all'Italia, sebbene io venissi da Milano, che non era proprio l'ultimo posto, ma non c'era paragone. E quindi cosa ricordo? I loro cataloghi dove potevi comprare la roba elettronica veramente a poco prezzo. Ah, è vero, io, è vero. Io tornavo a casa perché me lo comprava mio zio. Io ho avuto il QL, adesso non debordiamo in altre trasmissioni, ma ecco, l'Electron. No, però ricordiamo che in Inghilterra, ricordo anch'io che in Inghilterra viaggiavano molto i cataloghi, tipo come per noi viaggiava quello della Vestro, piuttosto che quello che abbiamo ricordato, Postal Market. Postal Market, Postal Market, già usa la testa, c'era Farnell piuttosto che altri, che invece avevano dei cataloghi di elettronica, ma anche di componentistica. I negozi non esistevano, il negozio come c'era qualcosa cataloghi, ma poca roba. Beh, io mi ricordo Tottenham Road a Londra, che era il paradiso, no, c'era una strada da solo di negozi di elettronica e computer. Dixons era quello più grande, si chiamava Dixons, però sul catalogo trovi più roba, ovviamente migliaia di cose. Sì, sì. Questo dal punto di vista di elettronico, perché un pezzo nerd ce l'avevo, e l'altro pezzo è chiaramente che in Inghilterra, soprattutto all'epoca, ma credo anche adesso, a 18 anni ti buttano fuori di casa, il che vuol dire che c'era una valanga di ragazzine poco vestite, molto molto solitarie, o meglio che soffrivano solitudine, che vagavano per questo paese, e l'italiano tirava tardi. Bravo, c'era anche questo da dire, che io mi ricordo che io non ero un tipo, come ho raccontato prima, particolarmente aggressivo verso le donne, cioè proprio ho sempre avuto questo difetto, mi interessavano meno, non c'è niente da fare, non perché fossi gay, ma perché mi interessavano di più i computer, non c'è niente da sì, fare. Uguale. Era così, cioè, era proprio sì, endemico. Non è che ci facevo caso, non esistevano. Eppure in Inghilterra possiamo chiudere qui la trasmissione comunque. Che cazzo ci posso fare, era così. Vabbè, ma siamo in orario protetto. Ma in Inghilterra era tremendo, cioè io mi ricordo che quando andavo in Inghilterra solo per il fatto di dire che eri italiano ti saltavano addosso, sul serio, cioè avevi la fila delle finlandesi, norvegesi, svedesi e anche le inglesi che andavano a cercare gli italiani. Sì, più le scandinave però. In generale. Allora vi racconto anche questa che fa parte degli anni '80, è in tema. Vacanza Interrail. Sì, esatto. 1989, quindi siamo al limite, o 90, adesso non mi ricordo. Siamo 90, al limite. Fatta comunque, sì. Quindi arrivo all'epoca l'Interrail col biglietto potevi girare tutta Europa, non come adesso che hai delle cose, e noi lo facemmo. Anch'io. Il bello è che la cosa divertente è che io devo farlo con mio cugino che è di Roma, adesso vive in Germania tra l'altro, e la sua compagnia. Poi lui ebbe un problema e non poteva venire, quindi mi trovai io e la compagnia di mio cugino, di ragazzi romani che assolutamente non conoscevo, però sai all'epoca era facile, quindi trovammo, anzi li sento ancora, penso. E girammo tutta Europa e arrivammo in Danimarca, che è un posto incredibile, voglio dire. Copenaghen. E praticamente mi ricordo anch'io Copenaghen. Praticamente andiamo in questa discoteca e lì i ragazzi, almeno all'epoca, non so adesso cosa fanno, si ubriacano tutti in maniera terrificante e poi praticamente si piantano per terra morti così. I loro. E c'erano, noi prendevamo le donne, no, ma tu scherzi? Sì, è così. E c'erano queste ragazze che si guardavano intorno tutte annoiate, cioè, che dobbiamo fare? Allora venne una, allora, diciamo, ci siamo scambiati la nostra collezione di farfalle, al che dopo un po' di ore mi fa: vabbè, adesso guarda, si è ripreso il mio ragazzo, io vado a casa. Io rimasi, cioè, fammi capire, quel coso per terra lì era il tuo ragazzo. Lo so, no, io mi ricordo una cosa però. Anche in Germania, l'anno dei mondiali, cos'era, il 90? Io ero in Germania, sempre d'estate. Allora, sempre con mio cugino di Roma, che stavolta è venuto perlomeno. E lui è un ragazzo, cioè, bello, alto, sportivo, ha sempre fatto sport, cioè lui cucca, io cioè non sono nulla. Cominciamo a girare per locali, eravamo sfigatissimi, non sapevamo dove andare e praticamente entriamo in un locale, storia folle, nel primo locale salta fuori che era una specie di locale per appuntamenti dove c'erano tutte le tedesche che andavano con uomini di colore, insomma evidentemente avranno avuto un motivo. Allora, andiamo via, il Big Mamba, il massaggiatore colorato, esatto. Allora cambiamo locale, andiamo in un altro locale e qui cominciano, ci sono delle ragazze, parliamo, scusate, dobbiamo andare, è arrivato nostro fratello, e spariscono per un'ora, poi ritornano, vabbè, riveniamo a parlare, no scusate, dobbiamo andare, è arrivato nostro fratello, perché insomma c'è un sospetto che è suo fratello, praticamente erano delle prostitute e quel tizio era il magnaccia, quindi brother. E allora andiamo via pure da sto posto, finiamo in un altro locale e c'è era la sera che aveva vinto il mondiale la Germania, quindi erano tutti molto contenti e ubriachi. E anche lì io mi metto a parlare con una tizia che era tutta allegra, sai, aveva vinto il mondiale, vai a parlare. E si avvicina un tizio, mi fa: ah, questa è la mia fidanzata. E io gli faccio: ah cavolo, scusa, no? Non lo sapevo. E lui mi fa: no, ma non ti preoccupare, tanto siamo tutti allegri, voi italiani siete nostri amici, e se ne va. E io rimango. Esperienze divertenti, diciamo. Comunque, guarda, aspetta, scusa, che posso dire soltanto una cosa? Che questa cosa degli anni 70, no, poi te faccio dire, però è importante questo aspetto, perché questa cosa negli anni 70 e 80, che soprattutto in Svezia e comunque nei paesi scandinavi, comunque l'italiano in particolare aveva questa attrattiva, è stato un bene e è stato un male, perché poi in realtà molti tristoni, sfigati, incivili, soggettoni di ogni genere, praticamente piavano, partivano, andavano in Svezia, perché si pensavano in Svezia qualsiasi peggio sfigato andava lì e scopava praticamente, cioè da questo un po' il discorso. E devo dire che poi questa cosa appunto era vero, Simo, però era vero fino a cioè era vero, no, se era vero punto, no, non era vero, perché comunque veramente io ci sono stato due volte in Svezia, devo dire, ho visto delle bestie, proprio delle bestie, delle persone che, vabbè, adesso non esagerato, no, io ti parlo di quelli che ovviamente, siccome che in vita loro non hanno mai visto niente, che non sono mai usciti di casa, che andavano lì perché dice forse qua finalmente. E quindi poi alla fine questa cosa ha creato anche, come posso dire, uno staccamento da sto punto di vista. Io mi ricordo, parlai proprio con una ragazza svedese che in Svezia non era poi così insolito trovare persone che parlano italiano, per diverse ragioni, devo dire, non necessariamente legate al cuccaggio o via dicendo. È vero che comunque tante persone hanno avuto magari delle relazioni anche durature, no, con italiani, e alla fine, cioè, quello che raccontavano, cioè, che poi alla fine a loro questa cosa è venuta un po' a disgusto, no, questo atteggiamento del fatto che l'italiano andava lì perché era un po' come se fosse il turismo sessuale, no? E devo dire che questa cosa un po' male. A me non ho detto il contrario, Simone. A me una ragazza disse: poi... voi italiani vi attaccate troppo. Io le dissi: ma chi ti ha detto? Guarda, non ti preoccupa proprio. ma basta che ti attacchi tu, poi vabbè, vai Carlo. No, quello che volevo dire è che era una cosa che si noteva all'epoca, adesso meno, ma all'epoca si raccomandava tantissimo. Il fatto che una cosa l'ha detta Roberto, cioè che gli inglesi e comunque i nord europei si ubriacavano anche ragazzi giovani tantissimo e andavano proprio stesi, mentre noi italiani o che reggevamo meglio l'alcol o comunque bevevamo di meno, in generale comunque eravamo più sobri, ma soprattutto vedevi una differenza abissale tra gli italiani nel modo di vestirsi e di ma quello apparire ancora oggi è ancora così, Oggi molto meno, molto di meno, però comunque oggi molto meno. All'epoca la differenza era abissale, non solo nel modo di vestire, che per quanto tu ti vestissi male, io non è che in Italia ero considerato uno dei più fighi nel vestire, però là ero un fotomodello. Sì, è vero, questo è vero, ma è vero pure che però anche nel mondo dell'abbigliamento è cambiato tanto da noi oramai è cambiato tantissimo, compriamo dei H&M, andiamo a comprare da Primark, andiamo a comprare adesso fine, infatti, cioè. Non sto dicendo più adesso, io mi sto riferendo agli anni 80. è vero, è assolutamente vero, gli anni 80 era così, cioè tu era l'italiano lo distinguevi da lontano, in vacanza in Inghilterra tu dicevi quello italiano, quello no. Perché lo vedi già da lontano come era vestito, ma a parte il vestire, anche l'igiene intima, diciamo, cioè la pulizia. Noi comunque eravamo più curati, più puliti, con capelli pettinati, cioè stavamo attenti, per vabbè, quanto d'altronde noi siamo quelli che c'hanno ancora c'hanno il bidet. Esatto, eravamo decisi, infatti le ragazze per questo guardavano noi, è ovvio, cioè se tu mettevi un inglese di 15 anni un italiano di 15 anni, l'italiano di 15 anni sembrava un fotomodello in confronto all'inglese, seppure era un ragazzo italiano normale. Sì, poi dopo c'è anche un fattore strettamente legato al fatto che comunque, cioè, è più facile trovare un ragazzetto bello anche ora oggi, un ragazzetto carino italiano, che un ragazzetto inglese, insomma, cioè, sì, poi dopo ci sono le asperità genetiche. Insomma, che purtroppo allora, e chi ha fatto la vacanza da quello, cioè, indipendentemente da quello, sì, no, in generale, no, sono d'accordo. Abbiamo nella cura del corpo e del vestire, assolutamente d'accordo con questo. E quindi questa tirava tantissimo. La vacanza ad Amsterdam, chi l'ha fatta? Vabbè, però la vacanza ad Amsterdam, secondo me, usciamo dagli anni 80, cioè nel senso, no, io l'ho fatta nel 91, sì, anch'io ero già più grandicello, però ecco, però voglio dire una cosa, a parte che Pier G dice, vabbè, ci sono stato anch'io a Copenaghen, in un bar si avvicinano delle ragazze, ci erano da bere, il barista ci ha detto di non offrirgli niente perché avevano 15 anni e ne dimostravano 5 di più. Beh sì, anche questo è il bene e il male, no? Tante però a Copenaghen, se ricordo bene, forse lui è andato prima o dopo, da noi sotto i 18 anni non ti facevano entrare nel bar e nemmeno in alcune discoteche, anche in Inghilterra. Io rimasi sconvolto da questo fatto, infatti, cioè che non potevi entrare nel bar sotto i 18 anni e anche in Inghilterra. Sì, anche in Inghilterra il pub non potevi entrare sotto i 18. Comunque, 17, un aneddoto divertente delle vacanze che dicevate, le famose vacanze studio, è che ci andava sempre, ci sono andato anche io, mio fratello, e va bene, però mi faceva ridere perché ci andava sempre un mio cugino che era veramente una capra, cioè lui era proprio una capra, e ce lo mandavano perché ci speravano, insomma, e lui ogni volta tornava che parlava un'altra lingua che non era l'inglese, cioè una volta lo spagnolo, una volta il portoghese, imparava quello, vabbè, almeno qualcosa imparato, qualcosa l'aveva imparato, non ti dico perché, però insomma, chiaramente. Vabbè ragazzi, io direi che a questo punto ci sarebbero, metti quello che stavi sbagliando prima, esatto, adesso ci sarebbero mille cose, insomma, di cui parlare nell'ambito, insomma, di, però l'importante è aver disegnato un quadro. Però c'è una cosa di cui penso che ha già fatto accenno Davide, poi magari gli facciamo aprire lui sta cosa, perché in effetti, e qui ritorniamo con questa canzone che giustamente avevo sbagliato prima, perché invece è importante, perché ci racconta una cosa fondamentale, quanto sacrosantamente vera era. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. È il solito rituale, ma ora manchi tu. La languidi brin, brividi come ghiaccio bruciano. È il sax di Fausto Papetti. Fausto Papetti. Fausto Papetti noto per le copertine. Vabbè, ragazzi, questi sono i Righeira. L'estate sta finendo. Che è un anno se ne va. Giustamente nel pre-diretta Carlo ha detto una cosa su come si contava l'anno, giusto Carlo? Esatto. Io lo contavo che per me l'anno iniziava finiva ad agosto e iniziava a settembre, non finiva a dicembre, iniziava a gennaio, ma era così l'anno per me. E Davide ha detto, ha confermato. Se è così, è così per tutti, credo lo è stato. Sì, vabbè, la scuola era la cosa più che scandiva la, esatto, nostra vita, scandiva la vita. Beh, sì, indubbiamente era quello. E sì, perché tu la contavi a stagione come campione di calcio, fondamentalmente. No? Cioè, il tuo anno era l'81-82, insomma, fondamentalmente. Per quanto molto carina questa canzone, in realtà quello che trasmette è quel senso di malinconia che arrivava quando arriva a settembre, quando praticamente i posti dove tu sai piano piano incominciano leggermente a svuotarsi, quando poi si rimane sempre in una comitiva più stretta, gli ultimi, quelli che resistono fino all'ultimo, no? Quelli che vanno via il giorno prima dell'inizio della scuola. La scuola. E praticamente tutto si svuota, tutto un po' si spegne, anche l'aria cambia, no? La temperatura cambia, il vento cambia. E alla fine quella sensazione del fatto che, per quanto tu ti stai attaccando, ancora voler rimanere lì, ti sta dicendo che te ne devi andare. Perché passato il tempo è arrivato una cosa che... Simone, vai, una cosa che non abbiamo detto, che citiamo solo perché non facciamo in tempo, era essere rimandati a settembre. Ah sì, va bene, sì. Quello magari una puntata sulla scuola io la farei, perché comunque io sono stato rimandato una volta, ma non ho studiato, quindi esatto. uguale. Io dovevo studiare, dovevo portarmi i libri, però casualmente me li sono dimenticati a casa. Casualmente. Bene, comunque dai, perché poi dopo magari tu hai detto, secondo me la puntata sulla scuola alla fine ci viene anche fuori. Parliamo di questa malinconia, di questa sensazione strana che ci portavamo dentro, no? Davide? Io Sì, allora in base chiaramente alle fasce di età questa cosa aveva diverse facce, no? Perché nei periodi in cui parliamo di quando eravamo più grandicelli sentivo meno questa cosa e avevo voglia di tornare a casa, perché a casa avevo il computer, avevo tutte le mie cose che in vacanza non potevo portarmi e quindi non vedevo l'ora di tornare a casa certe volte, e comunque 15 o 20 giorni cominciavano già a diventare un tempo lungo di vacanza, e poi comunque costava, e perché finché ci vai con i genitori non sai quanto costa una vacanza, non esiste il costo, no? Quando ci vai tu con i tuoi soldi, insomma, vabbè, tagliamo corto. Quando ero piccolo, invece, come appunto ho scritto neanche nella presentazione, invece succedeva questo fenomeno che non si è quasi mai più ripetuto da dopo i 18-19 anni, che è veramente quello di tu sei in macchina seduto dietro, stai tornando a casa magari di giorno, ricominci a rivedere quando arrivi in tangenziale vicino a casa, ricominci a riconoscere certi edifici, certi cartelli, poi continui a guardare i cartelli, Milano chilometri 100, Milano chilometri 99, 98, 97, ti distrai un attimo, poi riguardi chilometri 80, stiamo arrivando. Finalmente poi cominci a vedere i palazzi vicino a casa tua, riconosci, cominci a rivedere le strade che vedevi tutti i giorni, che ti sembrano più grandi, più strane, tutto diverso, finché proprio arrivi in casa già senti subito appena entri nella tromba dell'ascensore un odore diverso nell'ascensore, un odore diverso in casa, tutto chiuso, spento, accendi tutto. La casa ti sembra più grande, tutta diversa. Ecco, questa sensazione di ritornare è come se fossi arrivato in un posto quasi che non riconosci quasi più come casa tua. Mi capitava solo quando ero molto piccolo, appunto perché stavo via molto più tempo, probabilmente quello è il motivo, e mi ero abituato a un altro ambiente e il mio cervello si era abituato a quello, e quando ritornavo a casa mi sembrava di tornare in una casa nuova e si ricominciava la vita, si andava subito in giardino, si andava a ritrovare gli amici che, mentre i genitori dovevano smazzarsi tutto il bagaglio, mettere a posto la roba, lavare, stirare, casino, dovevano lavare per due mesi. Sì, perché cioè, praticamente era un trasloco, e quando tornavi ritraslocavi nuovamente. Io andavo subito in giardino e mi dice: ah, cosa hai fatto? Cosa ne hai fatto? Ah, minchia, qua, là, e cominciavi a raccontare tutto quello che si è fatto al mare e tutte le varie cose, comunque in vacanza che cosa abbiamo fatto, cosa non abbiamo fatto, e io ho comprato questo nuovo giochino, non so, questa cosa, ci si ricominciava a reintrodurre, e poi pochi giorni dopo i più tristi risvegli di dover ritornare a scuola. Cominciava la tragedia. Beh, io devo dire, c'era anche il piacere di rivedere gli amici, poi infatti è sempre stata un po' una sensazione un po' strana, perché io devo dire la verità, cioè questa cosa di diversità non la percepivo il rientro in un qualcosa che lì per lì era alieno, cioè nel senso, comunque, perché esatto, per me casa mia era un'altra, era quell'altra, no, in qualche maniera, no, come dicevamo, switch off, switch on, poi alla fine. E secondo me la cosa che provavo io era un shock per me il ritornare, e quindi secondo me i primi due giorni ero proprio in una malinconia mortale, e stavo lì sdraiato sul letto, ripensavo comunque alle cose che avrei voluto rivivere o le situazioni che oramai non c'erano più, perché poi lì cominciavi anche a avere la percezione del fatto che le cose non le puoi trattenere in qualche maniera, no? Cominci a assumere anche questa consapevolezza qua, e poi cercavo subito il contatto con gli amici invece del luogo, per cercare di accelerare lo switch on, no? Diciamo così, no? Alla fine cercavi di chiamare, vediamo se sono già tornati, no? Di solito erano già tornati, però c'era un fatto che io mi ricordo, che mi sentivo più grande quando tornavi a scuola ed eri nella classe successiva, perché c'era comunque una specie di gerarchia nelle cose, quindi non so, eri in terza media o in quarta superiore. Beh, o sì, non lo so, cioè, beh sì, certo, non eri più una matricola, eri quello del secondo anno, poi eri quello del terzo anno, cioè, quindi alla fine cambiava anche il modo in cui ti guardavano gli altri, quelli nuovi che arrivavano, no? Cioè, cambiava, o come tu guardavi loro, o come tu guardavi quando, quello della prima, poi diventavi tu quello della seconda e della terza, guardavi quello della prima come quei poveri piccoli sfigati che dovevano poi subire quello che hai subito tu quando ti è toccato a te, no? Comunque Claudia ci dice che lei faceva le ripetizioni di latino mentre tutta la famiglia era in spiaggia, e guarda, questo succedeva spesso anche a mio fratello, non con il latino, col tedesco e con altre materie. Io devo dire che sono stato rimandato solo una volta, quindi alla fine questo problema non ce l'ho mai avuto, però devo dire che capisco, posso capire, perché poi alla fine, oddio, poi alla fine c'erano sempre i compiti durante le vacanze, eppure quello era una cosa che ti faceva un po' il mammatrone, perché alla fine se li facevi tutti a settembre, negli ultimi giorni, no? Che chi ha fatto queste cose più o meno, sì, esatto. Quindi alla fine anche quello era l'indice che stavi per tornare a una realtà che non cioè, sì, dai, comunque un po' il trauma c'era, la sensazione, certo. che oggi è difficile descrivere, cioè, nel senso, per me, perché in realtà era anche visiva, cioè era anche l'odore dell'aria che era proprio, c'era sì, tutta sì, una serie di segnali che ti stavano dicendo che alla ragazzi, fine alla rotonda che andavi con gli amici, cioè sì, quando ti incontravi ci andavi con la felpetta, non ci andavi più con la magliettina sghergiula, capito? Cioè, quindi era un po'... Vai, scusa Roberto, ti ho parlato sopra. Le città hanno un odore, certo, non è una... tutto c'ha un odore, cioè, per me anche la casa stessa, sì, per me l'odore è il primo elemento mnemonico fondamentale che ho quando a volte passo in un posto e sento un odore che mi accende un ricordo di un qualsiasi tipo, insomma. Ma questo penso che sia a volte normale. Non ci pensiamo. E a volte per vari motivi, tipo la predisposizione che dicevi tu, perché tornavi a casa eri un po' scioccato, ce ne accorgiamo, in particolare, come giustamente hai detto, quando ritorni, e lì ti rendi conto quando ritorni che la tua città ha un odore e la tua casa ce l'ha, e quindi sei talmente abituato che non lo dimentichi. Certo. Dimentichi. L'olfatto è uno dei sensi più antichi che abbiamo, per cui quando colpisce lo fa in maniera molto profonda e ti dà delle sensazioni molto forti. È quello che in Star Trek chiamano la firma quantica, no? Cioè, nel senso, la firma quantica. Cioè, esatto. ogni cosa c'ha, nostra... c'ha una sua, un suo valore quantico, e allora alla fine è la stessa... gli universi esatto. È un déjà vu molto forte. Noi avevamo un parallelo di odore, vista, tutti i sensi erano coinvolti perché era tutto diverso, sembrava tutto diverso, non sì. solo l'odore sicuramente era una sì. cosa, ma anche dimensionalmente era un po' la crescita, perché se tu stavi via 3 mesi quando eri sì, bravo, eri diverso, bravo, non è una cosa da sottovalutare, proporzionalmente diverse, è vero, sì, è vero. Però sembravano più grandi, però a me mi dava questa impressione che fossero diverse, se più grandi o più piccole, sbagliavi le proporzioni. Io mi ricordo la sensazione forte che ho avuto era quando ero piccolo, che era il contrario, quando tornavo nel posto delle vacanze l'anno dopo, che erano passati più mesi ovviamente della vacanza, nel periodo di crescita, io mi ricordavo e dicevo ma questo sottopassaggio è sempre stato così basso, io me lo ricordavo alto, e poi lo ricordavi, ma in realtà eri tu che crescevi e quindi ti cambiavano le proporzioni visive. C'è quel fenomeno, gli odori, il clima, insomma, tante cose che insieme ti trovavi un po' come spaesato, veramente molto. Per i primi giorni era un po' così, insomma, strano. Era questo effetto che però tutto sommato non lo consideravo negativo, lo consideravo un valore positivo, che quando non mi è più capitato per tanti motivi mi manca di tornare, di avere questo effetto. Io per un certo tempo ho detto che mi sono consideravo vacanze dove mi sono veramente tanto divertito direttamente proporzionale a quanto mi sentivo strano quando tornavo a casa. Quando tornavo a casa mi sembrava di non essere mai uscito da casa, vuol dire che avevo passato delle vacanze del tubo. Certo, per forza. Se invece comunque al contrario, chiaramente vuol dire che t'arrivi. Però questo dipendeva molto anche dal fatto che ne passavamo più tempo in vacanza una volta. Esatto. Adesso le vacanze sono delle specie di gite fuori porta, anche quando facciamo le vacanze. Alla fine. Quindi... tra l'altro sei sempre connesso, sei sempre al lavoro. Sei sempre al lavoro, non stacchi mai, è tutto diverso. Purtroppo questo devo dire che è una cosa che è cambiata tantissimo nella nostra società, è cambiata veramente in peggio, se devo dire la verità, però ovviamente non è che ogni generazione ha le sue, ecco. Io alla fine del documento in realtà io ho aggiunto qualcosa, perché è vero che finiva tutto, però l'estate aveva un prequel e un sequel, diciamo, cioè c'era quel periodo di buffer estivo che si viveva comunque nella tua città prima di andare via o un pochino quando tornavi. Ah, io questo non ce l'ho mai avuto. Io lo identifico con le feste dei partiti nel paese. O le feste del paese stesso. Per me, nel mio paese, erano le feste dei partiti, che erano le tre feste tipiche, erano la festa dell'unità, la festa dell'amicizia e la festa dell'avanti, che erano il PC, la DC e il PSI, praticamente. Sì, esatto. Io che ero ragazzino andavo a tutte e tre, perché non capivo la differenza. Ma sì, c'era la salamella, vabbè, c'era se mangiava, i fagioli che godiche, si ballava, sì. Viva, no? C'era anche la festa dell'oratorio là in mezzo anche. Capitavo no, noi sì. No, non so perché, se era la provincia di Milano che era così, dove abitavo io, non lo so, era particolarmente politicizzata, però negli anni 70 mi ricordo che esistevano solo quelle tre feste ed erano solo quelle dei partiti, che fine. Ah, solo in provincia. Avevano, di provincia. C'era a giugno-luglio a Settimo, dove abitavo io, e poi a luglio-agosto a Borgio Verezzi. Le rifacevano, no, le facevano in tutta Italia, penso. E quindi sì, ma il periodo era diverso, perché giustamente in Liguria le facevano quando c'era gente, quindi in luglio-agosto, mentre certo. in città lo facevano prima che andassero via le persone. Quindi facevo la doppia quando c'è. Per me erano delle feste bellissime, perché c'era, arrivava il tizio con il Luna Park, c'era la festa era tipo grande festa dove si mangiava, c'erano gli spettacoli, eccetera, eccetera. La più grande sempre, almeno che mi ricordo io, era quella dell'Unità, quella del Crociato, sì, Sicilia, sì, sempre, sì, sempre stata per festa dell'Unità, con mangiare, eccetera, seguita stretta a breve distanza da quella dell'amicizia, che era quella della DC, e poi ultimo nell'angolino il PSI con la festa dell'avanti, che era piccola, però c'era sempre la salamina, quindi andavo lo stesso, perché esatto, c'era esatto, quando si mangia bisogna sempre andare da noi, come la chiamano, a sarciccia, no, da noi per esempio nelle Marche facevano facevano i fagioli con i codici, quindi per me era uguale, cioè nel senso era comunque una cosa. Devo dire che io questa cosa che dici tu dell'interregno non l'ho mai vissuta, perché io da noi, cioè io mi ricordo che più o meno la scuola finiva il 15 giugno e ricominciava il 15 settembre, diciamo giorno più giorno meno, diciamo c'era questa abbastanza scadenzata come cosa. Io il 15 giugno uscivo da scuola e partivo, cioè proprio zero, cioè avevo perso il... infatti sì, mi sentite? Simone sei mancato per 10 secondi. Secondi, no, dicevo che comunque io il 15 giugno, quando finita la scuola, partivo immediatamente. Infatti io non ho mai visto Roma in agosto, fino a che non sono cresciuto, e quando l'ho vista per la prima volta mi sembrava un universo parallelo che esisteva solo nella fantasia contorta di qualcuno, cioè non ho mai visto Roma vuota, io non l'ho mai vista vuota. Cioè, l'ho vista dopo quando ma agosto neanche io, cioè Milano ad agosto non la vedevi mai, no cioè, però vabbè sì, sì. La si vedeva solo se c'era qualche problema, qualche però, familiare che aveva dei problemi, sì, no, toccava stare a diciamo casa, diciamo che era per dire che io comunque come partivo e come ritornavo andavo a scuola, cioè non c'era proprio la transizione per me, quindi io una settimana o due capitava di avere questi interregni. Arrivavano anche prima, arrivavano, stavano sì, lì parecchio. Sì, sì, esatto, certo. C'erano anche durante la scuola, che già la scuola stava finendo, già. E tu considera che comunque, anche se la scuola finiva il 15 di giugno, non è che dal 1 di giugno al 15 giugno facessi tanto a scuola. No, no, se da mo' che se tiravano i remi in barca. Facevi un cazzo, cioè, pure, già praticamente pure i professori gliene fregava più un cazzo. Fine maggio, secondo me la festa dell'unità a Cinisello durava un mese, non durava sì, un sabato, no, una domenica. No, no, in alcuni posti le feste dell'unità duravano. Installavano proprio, cioè, delle infrastrutture. Io nella zona al mare da me, alla fine ci ho lavorato alle feste dell'unità quando ero un po' più grandicello, e ci stavamo almeno due settimane. Sì, sì, sì. come sì, ma vabbè, insomma, c'era certo anche questo che non ci sono più i partiti di adesso, partiti, chiamano partiti, quelli che ci sono adesso non le fanno più, no, adesso fanno feste di paese che si chiamano la festa della salsiccia, la ma festa no, della in realtà sangue, in realtà ancora esistono alcune feste tipo la festa del PD o però non, cioè, non so più la stessa cosa, quindi chiaramente sì, durano una domenica, vabbè, comunque dai ragazzi, io direi che Roberto, io mi ripeto, sì, vai, scusa, stavi dicendo qualcosa. Cinisello Balsamo era noto come la Leningrado d'Italia, quindi sì, è ovvio, è che avesse una... Beh, sì, sì, c'erano solo feste dell'unità, 3 a 4 ce n'erano in 3 a 4 posti, Villa Ghirlanda, c'erano vari parchi dove, vabbè, non era così insolito, cioè voglio dire, alla fine la metà della gente votava PC e la metà della gente votava DC, cioè, quindi alla fine in sostanza era questo, quindi c'era questa, poi dopo c'erano comunque anche le altre quando realtà, faremo la puntata sul pentapartito, che tanto dovremo farla anche sulla politica, vedremo, vabbè. Sì, ok, no, vabbè, sì, comunque... Vi scornate te, Simone, io e Davide, esatto, gli spettatori. No, ma io non mi invitate qualcuno. Io non mi scorno, con nessuno, c'ho ragione io, e quindi nel senso che parlate voi due, no? No, scornarsi, io proprio ho poco da dire, poco. Il PC era un partito serio, Io l'ho sempre detto, il PC era un partito serio. Bene, ragazzi, comunque dai. Eccolo lì, stoppia. No, ma proprio perché, ragazzi, cioè, nel senso, se no cominciamo a parlare di sta cosa. È la fine, sono le 23:47 qui su www.rantemeradio.it. Ancora una bellissima puntata di Quando Eravamo Futuro, dedicata a ovviamente quelle che erano le vacanze d'estate. Scrivete nei commenti, magari anche le vostre, noi raccoglieremo tutto nelle prossime puntate, o magari faremo una puntata dedicata ai commenti di tutti quanti, chissà, magari una volta che siamo un po' più pigri, che non ci abbiamo voglia di andare a trovare le cose. Detto questo, invece io vi invito praticamente a stare sempre collegati con noi, scaricare il podcast, cercarlo sui vari feed reader e via dicendo, e la prossima settimana tocca a me, tocca a te, e la prossima settimana si parlerà della TV dei ragazzi, e non è soltanto parlare di cartoni animati, perché faremo un excursus su quello che era la televisione degli anni 70, di quanto enormemente era diversa rispetto a un universo completamente diverso, no? Cioè, nel senso, poi non anticipo niente, perché c'è gente magari più giovane che neanche si immagina che potesse esistere una televisione così, e che era tutto veramente totalmente diverso, e in quel contesto c'era, ovviamente in quel contesto di fare televisione, c'era la TV dei ragazzi, che era questo contenitore nel quale verso il tardo pomeriggio, quando in teoria i ragazzi avevano finito di fare i compiti, succedeva questo, insomma, cioè, trasmettevano questi programmi qua, che poi vi racconto. Fai complimenti in diretta, Davide. Che ha fatto? Ha raggiunto i 3.000 in questo momento. Grande. 3.000 iscritti al canale YouTube di Survival Hacking, sul suo canale di YouTube. Anche lì andate, iscrivetevi, attivate la campanella e seguitelo, perché ovviamente è un progetto sul quale abbiamo concentrato, e lui ha concentrato tantissime energie, e è stata una scommessa vincente. Siamo contenti di questo, perché i presupposti ci stavano. Ce lo merita. Ringrazio e quindi saluto Davide Gatti, che è stato l'autore di questa puntata. Ringrazio tutti voi che avete, oltre a quello che mi ricordavo, avete introdotto tante cose che mi hanno ritrasportato, come dicevo oggi sempre in una registrazione, questi episodi qua sono un po' come dei teletrasporti o delle macchine del tempo, vedetele come volete. Se riuscite a chiudere gli occhi e a pensare a quello che ci siamo detti, e vi siete catapultati lì, vi cominciate a trovarvi in quel posto proprio, e a vivere quel momento, ed è per me una cosa sempre molto bella poter immaginare quello che è successo nel passato e riviverlo parlandone tutti assieme, e mancano sempre qualche pezzettino che grazie a voi salta sempre fuori e si compone il quadro completo del nostro passato. È sempre stata una cosa che mi è sempre piaciuta tanto. Ringrazio tutti voi per questi pezzi mancanti, e ringrazio tutti gli ascoltatori che, con tutti i pezzi che abbiamo dato, credo avremmo completato anche il loro puzzle, se si sono immedesimati, scusate la parola. e ringrazio ancora tutti per le, i 3000 iscritti, per quelli che si sono iscritti al mio canale. Infatti, grazie. Infatti. Ringrazio e saluto Carlo Sant'Agostino, che ricordiamo anche che è uscita grazie. La puntata di Archeologia Videoludica la scorsa settimana. Assolutamente. E noi di conseguenza, grazie al fatto che su Due Macchine ha fatto 3000 iscritti, noi di rimbalzo ne facciamo 1900 su Archeologia Informatica. Dai. Solo perché Davide ne parla grande, nel canale, grande, perché grande. Sennò... va bene, dai. Sì, è uscita l'ultima puntata di Archeologia Videoludica, dove abbiamo avuto un ospite importante, quindi andate e ascoltate la puntata, la trovate ovviamente su Spreaker, Archeologia Videoludica, i canali di Runtime, e altrimenti passando al sito di Archeologia Informatica, dove trovate il post che vi porta alla puntata dove parliamo di Ultima e la Origin. Perfetto, e ringrazio e saluto anche Roberto Domaiuolo, che però non abbiamo detto come si chiamerà il podcast, non mi sbaglio? E ci arriviamo. Fammi innanzitutto salutare e ringraziare gli ascoltatori, quindi e buonanotte per chi ci ha ascoltato in diretta o ci ascolterà in podcast la sera. Fammi fare i complimenti a Davide, perché lo merita. Chi è così matto da non essere ancora iscritto al suo canale lo deve fare immediatamente. Io sono fra gli iscritti e è uno dei pochi che ascolto sempre con curiosità e piacere, che ancora sorprende assieme agli altri belli che fa Runtime, e alcuni sono davvero eccezionali. Il podcast si chiamerà Delenda Cartago, e vi dico anche il motivo, che non ha nulla a che vedere, non è né una dichiarazione politica né tanto un riferimento alla storia romana, semplicemente un riferimento alla storia che non so se conoscete, che praticamente un senatore romano era solito concludere qualsiasi discorso facesse ripetendo sempre la stessa frase, anche parlando, non so, dell'uva. Lui concludeva il suo discorso dicendo e comunque Cartagine dovrà essere distrutta. Perché ho scelto questa frase? Perché non tanto, ripeto, per la parte storica, ma è una cosa che mi ha sempre colpito e dimostra come, quello che dicevo prima, sono gli uomini a fare la storia, con quello che pensano, con le loro ossessioni, con i loro errori, con le loro cose. Questo è il motivo per cui mi ha colpito e mi piace. E invito chi ci ascolta, se ha degli eventi storici, dei personaggi, delle cose di cui vuole parlare, a farmelo sapere. Anticipiamo che la prima puntata sarà, si intitola 13 giorni alla mezzanotte, e ripercorrerà quello che è avvenuto nella crisi dei missili di Cuba, quando siamo andati veramente vicino alla fine del mondo come lo conosciamo. Ed è una cosa anche questa un po' dimenticata, ma eravamo veramente a un centimetro da questa catastrofe. Grazie ancora. Benissimo, quindi ricordo a tutti che ci vediamo, ovviamente ci ascoltiamo ovviamente giovedì prossimo alle 21.30 sempre qui su www.runtimeradio.it, e vi ricordo che il 1° maggio dalle ore 16 alle ore 20 ci sarà questa grande festa, questa grande diretta lunga, questa maratona di Runtime Radio, che è tradizione oramai da diversi anni che la facciamo, ma soprattutto in maniera così massiva e così lunga da quando ovviamente siamo sotto Covid, e questo lo sanno in tanti. Saluto anche il signore che sta passando proprio in questo momento. No, grazie, no, grazie, sarò gentilissimo. Perché no? Un po', pigliene uno. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, buonanotte. Un piccolo seme può dare molto frutto, se mani amorevoli se ne prendono cura. Ma alle volte questo può non bastare. Ogni giorno migliaia di alberi vengono abbattuti, lasciando il nostro pianeta sempre più povero di una risorsa importante per la sua sopravvivenza. Ed è per questo che noi di Runtime Radio abbiamo deciso di sposare la nobile causa di Tridom, una realtà tutta italiana che da anni si batte per riforestare il pianeta con un sistema che fa bene a tutti. Vai sul nostro sito www.runtimeradio.it e accedi da lì alla Vargheomacchia, la nostra piccola foresta su Tridom, in cui potrai comprare un albero da far piantare nel luogo che desideri. Le cooperative locali pianteranno il tuo seme nel rispetto dell'ecosistema, della fauna e aiutando così anche l'economia del luogo. Basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fallo assieme a noi.